anche ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. فإذا جند الله يدكهم دكا يدكهم دكا Ciao, sono Valentina Nappi. Buongiorno, buongiorno, bentornati ad Agorà. Buongiorno David Parenzo, buongiorno Dania Zevi. Casa Parenzo, casa Zevi, due amici di Agorà, buongiorno. Buongiorno. Perché la legge non è uguale per tutti. La legge è uguale per i deboli, per gli onesti. Non per questi sfaccendati, per questi sacchettoni a perdere. Che in Italia fanno quello che cazzo vogliono loro. Io non mi sento nella possibilità di lamentarmi perché sto su un divano avendo a disposizione un computer, un televisore, un apparecchio wifi per la musica eccetera, quando penso che mio padre è andato in guerra. Quindi una generazione che non capisce quale mirabilie sia stata la sua vita, quale mirabilie siano stati gli anni 60, 70, 80 per l'Occidente, e sta a mugugnare perché si perde qualche aperitivo e una generazione di minchioni. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine. No, aspetti, no, aspetti, no. Luciano, per piacere, fammi parlare con suo figlio di puttana che disse che gli autotrasportatori sono tutte bestie, che guadagniamo 5.000 euro al mese, che pago 1.400, poveretto. Fammi parlare con suo figlio di puttana, sono pure io un autotrasportatore, che ha detto che siamo tutte bestie. Certamente che siamo tutte bestie, ma se non siamo noi che portiamo la merce tutte le notti, suo figlio di puttana non è che può mangiare la roba fresca tutti i giorni, capito? Fammi parlare con suo figlio di puttana. Dal bunker di via Monterosa, altra puntata di questa disgraziata trasmissione. Da casa sua, David Parenzo. Applausi, applausi. Buonasera amici cari, buonasera. Con una buona notizia, battuta alle 18:21 il Viminale, il ministro dell'interno, dottor Lamorgese, dottoressa, perdon, Lamorgese dice sia camminate genitori figli vicino a casa. Questa è una cosa è la prima pazzesca. Buona novella, ma care amiche è una e cari amici, è una care amiche e cari amici che vi vogliamo dare. Vedi come non sono imperturbabile oggi, non cado nei tuoi tranelli. Solamente ho un tono alla fusata, care amiche e cari cari amici, cari amiche, il Viminale, che cos'è, sì, che dice? Il Viminale ha specificato, che si possono fare non le sapevi? Camminate genitore figlio vicino sia a casa. Camminate genitore figlio vicino a casa. Ma questo è una ce l'ho segnato qua, dove? È dove ce l'ho qua, segnato? Eccolo qua, qua, eccolo qua, non lo comunque puoi vedere. Oggi non qua. Mi trascini in polemiche, perché userò sempre questo monocorde tono fusariano. Posso dirti una cosa? No, ma posso dirti... Buonasera care amiche e cari amici. Buonasera. Questa roba qui decisa dal Viminale, questa cosa qui decisa dal Viminale qualche secondo fa, qualche minuto fa, è una roba ridicola. Cioè qui ancora siamo nel pieno della follia e tu consenti agli italiani, che sono anarchici, di fare una camminata genitore e figlio vicino a casa. Una camminata, ma non cosa hanno parchi, capito? Una camminata, ma se tu dici palazzo, che genitori e figli possono camminare palazzo, a cazzo di cane, è evidente che inizia il delirio. Multe, no, lanciafiamme, multe, De Luca, no, dove sei? Alla corsetta. De Luca, dove niente sei? Jogging, la nuova circolare vabbè, del Viminale circolare, lo specifica. Ma falla finita. Sì, alle passeggiate, ma sarà tutto così. Da qui in avanti avremo ogni giorno delle piccole novità che riguarderanno i diversi territori del nostro amato paese. Va proibita, ma quali camminate genitore figlio vicino casa? È una roba da pazzi. Con tutte le precauzioni del caso, cagare, con tutte le precauzioni del caso, ovviamente. Voglio iniziare la trasmissione perché me la voglio prendere questa volta con Michele Caruso, che mi ha veramente rotto i coglioni. Cioè non si ma può più richiamato tollerare anche oggi. No. Sì, ha richiamato Tagadà, dove eri anche ero tu. A Tagadà, ero lì, chiama ma questo qui stavo per dire. Vacci in qualche trasmissione durante la giornata. Stamattina ad Agorà, oggi pomeriggio a Tagadà. Agorà a Tagadà. Domenica da Giletti e domenica da signor Giletti. Domenica da signor Giletti. Cerca di avere un po' di moderazione, un minimo di ritegno. Disse, la gente... disse quello che tutti i giovedì va dal signor Del Debbio a dritto e storto. A dritto e storto su F4, tutti i giovedì, ha pagato per giunta, pagato. Michele, perché tu no? Ti invece, ricordo. Che no, schifo. Io no, beh, adesso, Michele Caruso, perché, vai. Rai, adesso, Michele Caruso, lasciamo perdere. Con la dita. Buon pomeriggio, con chi parlo? Sono Salvatore Daenna, Salvatore grazie dell'opportunità. Grazie a lei, Salvatore. Sì, vorrei fare la domanda a lei, professore, io ho 71 anni. E ho la febbre a 37,5 con tosse e raffreddore. Non vorrei che uscendo da casa praticamente insomma, a fare delle commissioni ho contratto praticamente questa infezione del virus del coronavirus. E qui a un certo punto non ci sono possibilità per poter fare il tampone, professore. Come dovrei fare insomma, per sapere, come faccio a sapere se ce l'ho o non ce l'ho? Allora chiudiamo la telefonata e da una parte mi fa ridere perché oggettivamente è un genio del teatro, perché si è inventato un personaggio, cretino. Salvatore Daenna, che balbetta pure un po', balbetta per trarre in inganno i conduttori, quelli che ricevono le telefonate. Comunque ragazzi, questo è malato di mente, cioè questo passa le giornate a rompere i coglioni e dice delle cose anzi gravissime contro i malati, è contento della gente che muore al nord. No, Michele Caruso, ti devi cretino. Vergognare. Va bloccato Michele Caruso in questa fase, va bloccato, a noi fa ridere, ma andrebbe bloccato male, con i carabinieri. I carabinieri intervengono su Michele Caruso, che prende per il culo meno le persone male. Malate, cioè chiama fingendo di essere malato. Ma che cazzo stiamo. Ma ragazzi, ma è un folle totale sto Michele Caruso. Bravo, non male, meno male. Dai, su. A me fa ridere, perché poi alla fine ogni fa ridere, tanto, perché pure tu. Però no, ogni ma perché fa ridere? Tu. Perché se lo senti fa ridere. Meno male. Perché meno oggettivamente male. È un genio, si inventa dei personaggi e chiama le trasmissioni. Tagadà non hanno un filtro di telefonate meraviglioso, diciamo la verità. No, non ma, hanno no, questo ma c'è filtro. Una persona che è messa lì e che dai. Deve fare? Mica conoscono, mica adesso, hanno i telefonisti della Zanzara. Caro Parenzo, ti voglio. Poi altra notizia che non hai voluto dare, no, si è dimesso il capo della protezione civile in Calabria. Sì, una cosa perché, scandalosa. Perché non aveva detto di non, sì, sapere, non, che non sapeva cos'era il ventilatore, sì, polmonare. Cos'è il ventilatore polmonare? Sì. Vabbè, tu dai queste notizie, tu le liquidi così, e vabbè. Ragazzi, di cosa vogliamo parlare? Allora prostitute, avanti, dai. Andiamo avanti, siamo in Calabria. Che il capo della protezione civile conto. Calabrese il capo della protezione è pazzesco, però scusa, ho capito, come non ti stupisce? Non mi stupisce che in Calabria non ti stupisce. Ci sia questa situazione, non ti, ma non mi stupisce per niente, assolutamente nella maniera più il fatto che tu non il fatto che tu non ma ti stupisca no, non mi stupisce, ma la gente viene messa lì spesso senza altre parte, cioè, non mi stupisce per niente. Però ti voglio sottoporre questo audio del signor Meluzzi. Signor Meluzzi, questa volta non è cioè non è proprio sulle cause della pandemia, cosa sì. bisogna. Ma lui pensa che ci sia un farmaco che risolve la questione. C'è un farmaco che costa 6 euro. Meluzzi. C'è Meluzzi, un farmaco salvavita, che poi in realtà è la clorochina, cioè il farmaco contro la malaria. Io ho preso più volte quando andavo in Africa tanti anni fa. Prendevo la clorochina. Ah, perché la tu andavi in Africa. Andavi in Africa. Cazzi miei, andavo in Africa. Ma adesso cosa c'entra che andavi in Africa? Andavi in Africa. No, no, questo sono sempre dettagli. Andavi in Africa pagato da chi? Da nessuno. Pagato da chi? Da chi in Africa? Meluzzi, dai, Meluzzi. Dico un'ultima cosa, approfittando di un secondo che mi prendo un po' violentemente. Ricordatevi che c'è un farmaco che costa 6 euro a scatola, che è un farmaco a salvavita formidabile. E questo ormai è accreditato, io l'ho saputo dagli amici russi di criminologia 2 mesi fa. I francesi ormai lo stanno utilizzando, qui lo si utilizza poco, inseguendo altre ubbie, perché costa troppo poco, perché è un farmaco. E qual è questo farmaco? Mercato, ed è l'idrossiclorochina, lo sapete tutti. L'idrossiclorochina è un farmaco comprovatamente efficace che costa niente, quindi questa sarà una delle poche ragioni per cui non verrà propagandata. Ma io mi assumo però, la responsabilità, Meluzzi, di dirlo qui di dobbiamo fare attenzione a dare speranze. Faccio ci sono persone, io attenzione lo dico. Ci sono persone, ecco, qua, noi dobbiamo dare solo informazioni verificate. Allora, posso dirti una cosa? Allora, il farmaco si chiama Plaquenil o Plaquenil. Costa effettivamente 6 euro. È un farmaco che in Francia ha suscitato qualche polemica 2-3 settimane fa, perché viene sperimentato, viene utilizzato da un medico di Marsiglia. Questo stesso farmaco, però, questo vedi, gli scienziati poi, Meluzzi non è uno scienziato e sta dicendo che questo farmaco salva le vite. E dunque, secondo te, è gravissimo, no? Giusto? Secondo te è gravissimo? No, o io dico semplicemente che non è un lui non è un esperto, un virologo. Sì, ho capito, dicendo che salva le vite, psichiatra. È un irresponsabile secondo te dicendo lui che questo farmaco psichiatra. Salva le vite? È irresponsabile. Se non ha fatto o no? studi, se non ha fatto ma no, studi, non li ha fatti, gliel'hanno consigliato, è un grande irresponsabile. Sì. Fra poco parlano solo le persone che sanno di questo e che si occupano di questa ricerca. Allora, fra poco cioè sono pochi che se ne allora, occupano. Fra poco ti farò ascoltare fra poco quello che ha detto domenica a proposito di questo farmaco, il farmaco sulla malaria, Burioni. Sì, professor Burioni, no, certo, ma ti dico quello che ha detto lui. Quello che ha detto lui. Poi dimmi se la gente non comincia ad andare in farmacia a fare scorta di questo Plaquenil, di questo farmaco. No, l'ho sentito in diretta quello che disse domenica. Praticamente la stessa cosa. Devi mandarlo tutto. Okay, no. Ma che cosa lo dice lo a fare? Ha detto allora? Con cognizione ma cosa di causa lo dice diverso, a fare che però? C'è questo farmaco miracoloso? Perché ha dato una notizia ma rispetto non c'è notizia alla sperimentazione da dare. Che è in corso. Non è un cabarettista. Dovrebbe infatti dire. Infatti ha anche detto, a differenza di quelli irresponsabili dei Meluzzi, lui ha anche detto adesso non andate in farmacia perché ha effetti collaterali e quindi sono i medici che ve lo devono prescrivere. Assolutamente sì, io ero presente. L'ho ascoltato. Ma non è così. Hai tagliato artatamente solo ma la parte che ti interessa. Lui ha detto non andate. Lo hai fatto. Sei un mezzo criminale. Io l'ho sentito, ti giuro, ti assicuro. Ti assicuro, l'ho sentito. Non ha detto no, davvero, non sto scherzando. Ha detto un'altra cosa, perché non c'è nessun effetto collaterale. Non andate in farmacia. Oh Cruciani, qui si smatta, tra seghe e canne si diventa scei e stupidi. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Parenzo era proprio lì ad Agora stamattina, incazzato nero con leghista. Voleva dirgli: sei un imbecille, maledetto, miserabile. Tutte le cose che dice, tutte le cose che dice in trasmissione, con sua moglie che lo teneva, con sua moglie che lo teneva. Lui aveva voglia di sfogarsi, mamma mia, e non poteva. E sotto sotto lo voleva fare, perché lui sotto sotto è uno di noi. David Natania da casa Parenzo. Mamma Mamma mia, ragazzi, allucinante. Mamma mia. Perché vedi, se si prendono solo dei pezzi, si crea un'immagine. È proprio questo taglia e cuci che tu fai, che è pericolosissimo. Tu in Ungheria saresti già stato arrestato. Ma con i nuovi provvedimenti presi dal, votati dalla maggioranza che sostiene quel criminale di Orban, tu questa trasmissione qua non la faresti. Probabile. La faresti. Sai che dovremmo fare nei prossimi giorni? Sai che dovremmo fare? Dovremmo fare un'incursione in qualche radio, in qualche radio libera ungherese. Rumena, ungherese. Ottimo, radio libera ungherese. No, ungherese. Fare un po' di casino. Fare un po' di casino. Sì. Allora, vi voglio fare sentire adesso, tu parli di Potremmo Meluzzi. Far finta di essere Salvini. Salvini che chiama in inglese una radio. Ma non lo puoi inglese. Dire adesso però così pubblicamente. Ah, forse non in diretta? Non lo devi dire. Porca miseria. Se lo dici prima sei un coglione. Mamma mia. Allora, pensate, no ragazzi, però vi voglio fare. No, volevo chiamare in diretta, però bella idea. Va bene, adesso poi ci pensiamo. Allora, la cosa fondamentale è questa. Allora, tu hai attaccato Meluzzi perché dice è un irresponsabile se mette in giro notizie su un farmaco, eccetera. Non è un esperto. Ti faccio sentire. Ma perché lui non ha no, è un medico, ma non ha competenze poi in materia, lui sì, certo. È uno psichiatra. Chiudiamo. Invece il virologo Burioni, il virologo Burioni, domenica da Fazio, dice praticamente le stesse mandalo cose. Tutto però. Certo. Mandalo tutto. Secondo mandalo te la tutto. Gente che cosa fa? Non va in farmacia lo stesso? Senti no, qua, ma no. Come no? Ma tu perché hai preso le persone? Che ci sono 260 positivi che sono stati dal 26 al 29 marzo positivi usciti di casa che andrebbero presi e messi in galera in isolamento però in galera sono stati solo multati positivi usciti da casa dal 26 al 29 marzo quanti cazzo sono? 257 questi vanno arrestati secondo me arrestati. C'è una sorpresa strana perché è un farmaco che risale agli anni 50 un farmaco vecchissimo che si usava per la malaria che si chiama il nome commerciale che possiamo dire tanto un farmaco che costa 2 lire si chiama Plaquenil. E dunque la premessa è questa, c'è una sorpresa, c'è una grande sorpresa, il Plaquenil. La serietà di uno scienziato. Ma quale sorpresa? Ma non devi cose. Dire un cazzo! Perché la gente a Burioni viene ascoltato invece dalle persone. Meluzzi quando dà un consiglio su un farmaco non se lo fila nessuno perché ovviamente non è perché un esperto. È considerato un coglione. Vedi, il suo sottotesto è essendo considerato un pagliaccio, nessuno lo ascolta. Aspetta. Questo farmaco nel 2005 fu valutato come molto efficace per inibire la replicazione del coronavirus della SARS. Quindi funzionava molto bene in laboratorio, si accorsero, per motivi non chiariti, nel bloccare questo virus. Abbiamo trovato una cosa particolare. In laboratorio, quindi prudenza perché, non serve comprare il farmaco. No, adesso. Assolutamente. Okay. Questo ricordiamo che è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, però. Questo ci faccia capire che quando noi disegneremo uno studio clinico per studiare se funziona per davvero, e lo facciamo subito, non è una cosa che si fa 3 mesi, noi potremmo includere delle persone, magari a rischio, dei sanitari, ai quali diamo questo farmaco anche prima. E poi vediamo cosa succede. Cioè tu ti rendi conto, no? Cioè tu dici dai il nome di un farmaco, nome di un farmaco dicendo che non andate quando la sperimentazione. Sì, ma il punto non andate, ma che vuol dire? Ma perché ha fatto l'errore di raccontare quello che stava facendo la ricerca scientifica. Ma non si può, tappa dopo tappa spiega che dice c'è una piccola novità, stiamo lavorando su questo. Vabbè. Cioè tu la trasparenza la confondi per quella sortita sciocca del falso Pope. Fammi sentire l'arabo prima di porro, prima fammi sentire il imam prima. Oggi ce ne sono per ogni giornale, c'è un virologo che vi spiega per quale motivo non dobbiamo riprendere, dobbiamo continuare a essere chiusi, eccetera. E ve lo dico perché non vorrei sembrarvi irriguardoso nei confronti dell'emergenza sanitaria, ma se noi affidiamo la dittatura ai virologi e ai sanitari e ai medici, siamo fottuti, è peggio di quella di Orban. E se uno va a fare la spesa, caro prefetto di Milano, un paio di volte alla settimana, 3 volte alla settimana o 2 volte al giorno perché vuole evadere, non è un delinquente, chiaro? Signor prefetto di Milano, il cui mio rispetto è sempre massimo. Io invece sono convinto che se uno va 2 volte a fare la spesa durante il giorno è un cretino. Io sono convinto che sia un imbecille. Ma un certo, cretino totale. Porro, una uno volta va a fare la spesa il meno possibile, ma ripeti sempre la stessa cosa. Poi ma dice, sì, perché è cambiato, mi dispiace, è cambiato molto. Sono affari suoi. Allora, tutti contro Orban, ma il modello cinese va bene. Questa è una buona polemica. Tutti a rompere il cazzo a Orban, però invece accogliamo i cinesi. Chi ha mai detto, noi saltiamo chi ha mai la detto Cina. Che il modello cinese? Tu esalti la Cina, detto sempre, che no, veramente mai, mai fatto in vita mia. Io vorrei sentire la stessa identica, come possiamo dire, atteggiamento nei confronti per esempio del famoso modello cinese. Cioè qua rompiamo le palle a Orban e siamo tutti là che siamo in una specie garruli sul modello cinese. Cioè tra il modello cinese e Orban ci sono almeno 10 sfumature di libertà e di democrazia. Ma noi Orban diventa il grande problema, mentre il modello cinese che tutti noi vogliamo adattare è zitti e muti. E poi c'è la Meloni che dice Garruli è molto bella. Aspetta, come espressione. Poi Garruli, c'è la Meloni, bravo. Ma Antonio Martino che cosa direbbe delle tue... C'è la Meloni che dice che la vicenda di Orban è paragonabile all'Italia che fa decreti di emergenza. Cioè Conte peggio di Orban perché non è stato votato. Ma figurati, ma incredibile. Voglio dire, mi pare che anche qui in Italia, di fronte alla situazione emergenziale nella quale ci troviamo, ci siano quotidianamente decisioni molto gravose e molto dolorose che si stanno prendendo, nella stragrande maggioranza dei casi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Capito? Capito qual è la situazione? Giovanni dalla provincia di Foggia. Ma mica c'è il Parlamento chiuso, mica viene sbattuto in galera chi dice notizie false. Ma di che parla la signora? Di che parla il fratello, la sorella Sua d'Italia? Sua eccellenza Orban. Giovanni dalla provincia di Foggia. Vai, Giovanni. Giovanni. Paco deve sapere che se non ci sì, ma presentati prima, Giovanni, presentati. Sì, Giovanni dalla provincia di Foggia, sì. Sì, camionista, mi sembra. Sono un camionista, ex camionista. Allora, che vuol dire ex camionista? Allora, non fai un cazzo, che fai? Perché non effetto più, non esercito più il lavoro del camionista. Evviva, evviva. Perché, evviva. Che fai? Come in pensione ancora non ci vado, Come? E no, evviva. Pagliaccio di merda, David, non incominciare a rompere questo. I coglioni, perché io in pensione ancora non ci vado. Vabbè, non ci va mica, è colpa e di che Palenzo, me frega però. Me e che me ne frega, hai me sono in pensione. Ma con la lingua che tu e hai, che ci posso fare io se non vado in pensione? Tu hai la lingua, ma che me ne frega della pensione di questo qua? Ma a me che me ne frega? Ma perché è impazzito questo qua in due minuti? A me non me ne frega niente di quando questo qua va in pensione, questo qua. Che me ne frega a me di quando va in pensione? Ma vada a fare il culo per me, no? Lì deve andare lei, per quanto mi riguarda. Tu devi andare a fare in culo. Ma cosa, come siamo arrivati a questa discussione? Come siamo subito scesi? Ma com'è che siamo subito scesi in questa roba qua? Come che se non ci fossero gli autotrasportatori, di cui noi dormavamo in cabina e dormiamo in cabina. Dormivi, lui tu no, non lavori più. Dormivi, perché adesso non sei più. Dormivi in cabina. E allora che vuoi? In Italia e per l'Europa. Cabina, Paco, con deve una sapere B, che se non ci fossero gli autotrasportatori, lui nemmeno il panino potrebbe mangiare. Vabbè. E io sono italiano perché sono nato in Italia, lui non lo è. Ma lui è italiano, lui, come no, tutti cos'è? Gli altri. Italianissimo, non lo è più italiano lui di te, è più italiano di te. È più italiano di te perché non è uno stronzo. Vai a fare in culo. Questo scemo. È. Ma perché questo non è. Sei, tu almeno non quello sei non è uno scemo. Come non lo è Paco. Ma Paco è una forza Paco è una forza produttiva di questo paese. Lavora come operaio in una fabbrica. Perché io non sono stato una forza produttiva. E che vuoi? Ma che colpa abbiamo noi se ancora non prendi la pensione? Scusa, perché non la prendi? Ma che cazzo ti sta dicendo niente? È perché quello scemo dice viva perché pensava già che io fossi in pensione a 63 anni. Invece no, ho detto viva perché. Ma come stai campando adesso, allora. Giovanni? Come stai campando in questo periodo di coronavirus? Sto campando con che stai campando? Con cosa stai campando? Coglioni. Per il toccando, ma sei incredibile, Giovanni. Giovanni, sei incredibile. Il camionista fascista. Il camionista fascista della provincia perché di Foggia. Sono incredibile. Fammi capire perché sono incredibile. Ma perché te la prendi con Paco? Sei un troglodita. No, perché Paco si lamenta perché lui dice che verso i contributi, verso le tasse. Ma sarà vero. E beh, allora. Non, e allora non ho pagato le tasse. Guarda che cazzo si lamenta. Paco deve dire ma hai fatto grazie, il tuo dovere, ma che vuoi? Hai fatto il tuo dovere, ma che cosa vuoi? Ma torna nella grotta. Torna nella grotta. Hai capito? Pulisci il culo ancora, con quella lingua che hai. Ancora, torna nella grotta. Giovanni, torna nella grotta. Ma perché hai questa rabbia? Perché questa rabbia? Spiega. Perché hai questa rabbia? Perché hai questa rabbia? Perché io con Davide non voglio parlare. Ma perché hai questa rabbia? No, almeno, almeno io non mi sento responsabile. No, aspetta, ti sto per che mi escono dalla bocca. Ti voglio fare un complimento. Almeno è uno dei pochi che sa pronunciare bene il mio semplicissimo nome. Quindi complimenti, bravo. Fermi, sì, tutti, esatto. Fermi tutti, cazzo. Bravo. Fermi ti tutti. Sto dicendo. Fermo tu, fermo lì. Ma vaffanculo. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore insieme a Radio 24 e Radio Cor sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. La Zanzara. E ripensandoci, le parole del demone scimmio adesso suonano un po' profetiche. La gente deve pagare, cazzo, la gente sta pagando e con il sangue. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare, la gente deve pagare e con il sangue. La gente deve pagare, la gente deve pagare, la gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, la gente deve pagare, soffrire, la gente deve pagare, la gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare con il sangue. Pena di morte no, però chiudere e lasciare morire. Pena di morte no, però soffrire. You're sending approximately $100 million worth of things, of surgical and medical and hospital things to Italy. Giuseppe was very, very happy. I will tell you that they're having a very hard time. I will be the greatest president that God ever created. Ma io dico, ma è possibile che io è da una settimana che sono in giro con una mascherina di merda, tutta sporca, chissà quanto cazzo è impestata sta mascherina, perché le mascherine ancora non si trovano? Ma quando cazzo arrivano ste mascherine? Ho sentito che adesso quando ci sarà la ripresa ci sarà graduale, graduale, ma cazzo, ma mettete ste mascherine, date la possibilità alla gente di mettersi la mascherina, una mascherina al giorno, cazzo. Come si fa a riprendere sto paese? Non ci sono né le mascherine né i guanti, ma andate a fare in culo, va! La ripresa graduale. C'è un po' di rabbia, va, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Giuseppe, ne abbiamo assistito a un'altra bella conferenza, altre belle parole, il presidente, le riflessioni, con la giacca bella, la cravatta di Marinella, il poco di orologino da 10-15 mila bec. Ah, facciamo le riflessioni a casa, certo, facciamo le riflessioni a casa. Giuseppe, ho 30 anni, mi sono rotto il culo per farmi, Giuseppe, mi sono rotto il culo, non mi ha dato una mano nessuno, Giuseppe, io sono solo, ho 30 anni, mi sono rotto il culo per farmi, all'età di 30 anni avevo tre attività, Giuseppe, e molto probabilmente non ne riuscirà ad aprire nemmeno una, hai capito? con questi 600 euro che mi danno al mese me li danno pure, visto che qua sono un mese che sto chiuso, ancora non ho avuto un euro, visto che qua sono un mese che sto chiuso e ancora non ho avuto un euro, se me li danno pure, se me li danno pure, mi pulisco il culo, Giuseppe, mi pulisco il culo. Ho capito. Lo capisco, è un dramma, quello delle partite IVA è un grande dramma. Parenzo, tu non sei intaccato per ora da questa cosa, anche, che, anche se qualche soldo oggettivamente l'hai perso anche tu, però... Ma io sono una partita IVA, anche io pur avendo appunto questi lavori, però... Altri hanno perso tutto in questo periodo, altri hanno perso tutto. Tu non puoi dire che lo sai perché tu sei tredicesima, quattordicesima, sei proprietario di immobili in tutta Italia, in particolare a Roma, l'ambasciata di Spagna è costretta ad affittare, a dare i soldi a te, cioè tu, il governo spagnolo, in questo... Anzi, ecco, questo bisogna dirlo tutto. Tu sei proprietario di quel palazzo pazzesco. L'ambasciata, diciamo spagnola, perché allora in Spagna c'è in questo momento un dramma per il coronavirus. Tu dovresti sospendere l'affitto agli spagnoli, ma ad esempio. Dovresti sospendere l'affitto, tu affitti quel palazzo enorme che c'è a Piazza di Spagna al governo spagnolo. Bene, sappiate, cari ascoltatori, che con il dramma che c'è in Spagna in questo momento, questo signore prende i soldi dal governo spagnolo. E io voglio che anche in Spagna lo sappiano questo. Sei pazzesco. Gli hai ridotto, hai fatto qualcosa, gli hai ridotto l'affitto? Ma quale ridotto? Gliel'hai ridotto al governo ridotto? Spagnolo? Ma che sei impazzito? Ti voglio far stai zitto un attimo. Ti voglio far sentire questo agricoltore. Questo agricoltore è un audio di domenica, se non sbaglio. O comunque è stato diffuso urbi e torbi domenica. Questo agricoltore è una vergogna. Rispondete a questo signore qua. Rispondete, governo, direttamente a questo Bagatta. Signore Bagatta me l'ha mandato. Sì, l'ha mandato anche Bagatta, sì, l'ha mandato. Non è che Bagatta gli hanno mandato degli Bagatta. Audio e poi lui li diffonde. Ha fatto un'inchiesta, Bagatta ha fatto un'inchiesta e ha trovato. Senti, questa agricoltore. Nessuna inchiesta, Bagatta. No, nessuna. Sta sempre lì con la fidanzata giovanissima. No, Bagatta. No, si è lasciato. Sta sempre lì tutto il giorno con la fidanzata. Si è lasciato. Veramente. Vabbè, ma tempo fa. Ma che cazzo vuol dire? Dai, porca miseria. Hashtag trovate fidanzata Bagatta. Siamo a 4 settimane dal decreto di chiusura, siamo tutti a casa tranne chi lavora in campagna come me che zappa la vigna e pochi fortunati, gli altri tutti in casa. A 4 settimane non abbiamo ancora avuto informazioni su come ci dobbiamo comportare per quello che riguarda i mutui, giusto, i leasing, le rate delle finanziarie, gli affitti commerciali, gli affitti di casa, le bollette. Avete chiuso tutti in casa, ma avete la responsabilità di dirgli come fare a pagare le cose. Come fare a pagare le cose? Il governo inglese, la mattina dopo l'annuncio della chiusura totale, su gov.uk ha pubblicato 4 pagine di provvedimenti, finanziamento di 25.000 sterline a tasso zero restituibile in 4 anni, 15.000 sterline a fondo perduto, l'80% di disoccupazione a quelli che hanno perso il lavoro, blocco delle bollette, blocco degli affitti, la mattina dopo. In 4 settimane siete stati capaci di mettere fuori uno straccio di documento che avete sbagliato, rifatto, è buono, non è buono, pagliacci. A oggi non abbiamo ancora un decreto che ci dica come dobbiamo fare a pagare. Che cosa bloccate? Qui non si tratta di colore politico, qui si tratta di autorità, di classe dirigente. Quando sarà tutto finito? Evitate di venire su qua a Brescia, Bergamo, dalle nostre parti a fare discorsi belli belli, dare pacche sulle spalle ai dottori, a stringere le mani. Evitate, state dove siete perché veniamo a prendervi noi. Questa volta qua veniamo a prendervi noi, pagliacci. Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Appropriato, signor Benson, devo dire che quell'agricoltore ha perfettamente ragione. Non c'è, credo, una riga sbagliata, non so le cose sulla Gran Bretagna, non c'è nulla di sbagliato in quello che dice. Ma... E tu zitto a fare ma di fronte alla voce di un agricoltore. Mi sembra una cosa, ma, però... ma lui fa ma perché tu sì, i mutui li puoi continuare a pagare. Ci sono delle persone che non possono continuare a pagare. Ma sono stati sospesi. Ma vedi che sospesi? Non informi, ma deformi. Tu non informi, deformi le rate dei mutui sono state sospese. E mentre come no? Certo, sospese. Ma lui parlava di altro, parlava di provvedimenti presi in contemporanea. Cioè tu blocchi un paese e in contemporanea c'è il blocco di tutto. Deformi le rate dei mutui sono state sospese. Ma figuriamoci. Allora, posso dirti un'altra cosa? Ti dico un'altra cosa. Mentre questo accade, mentre questo accade a Bergamo, a Brescia, eccetera, eccetera, in Campania, in quel famoso quartiere di Pozzuoli, un signore, probabilmente lo stesso che ha organizzato quella festa vergognosa nel weekend, con la gente per strada, eccetera, sono stati identificati e denunciati, ma questi che cazzo gliene frega? Figure che gli fa, cioè, quello era un pregiudicato, quello là che ballava e rideva in quella piccola piazzetta lì di un quartiere popolare di Pozzuoli. Ma che gliene frega della denuncia? Ma sì, va sanzionato. Non è che se uno è un pregiudicato, allora no, dice non gli faccio nulla, perché tanto no, è un chi ha detto non fare nulla? Ho detto che non gliene frega niente a lui. E lo stesso, ma non gliene frega nulla. Un signore si è affacciato, credo che sia lo stesso signore o un altro di quella cricca lì. Noi ci dobbiamo sfogare, se no dobbiamo fare le rapine o uccidere la gente. Noi siamo capaci di ammazzare. C'è questo dal balcone di un palazzo. Ora io dico, amici miei carabinieri, poliziotti, procuratori, magistrati, perché non intervenire subito su questo tizio qua che va preso e tradotto nelle patrie galere? Tradotto nelle patrie galere. Uno che dice alla finestra: noi ci dobbiamo sfogare, se no dobbiamo fare le rapine o uccidere la gente, noi siamo capaci di ammazzare. Ma se non arresti uno così, in flagranza quasi di reato, ma quando lo arrestate? Ma quando vengono arrestate le persone? Uno che in finestra, davanti a tutti, dice: noi ci dobbiamo sfogare, siamo capaci di ammazzare, ma piglialo e arrestalo, no? Ma di che parliamo? Invece no. Gente, i video che circolano, e quello sta lì a casa a prendersi la multa di 250 euro, 300 euro che non pagherà, che non pagherà. Dai. Corretto. Carlo da Torino. Poi Luca da Milano. Carlo, è dai. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi, Carlo, dimmi. Io ho una caffetteria importante a Torino, ho 6 dipendenti. Sì, giustamente, giusto. Quindi l'anno, cioè, giusto, 2018, giusto, perché sarà incazzato, 100, immagino, no? 130.000 euro tra contributi e stipendi. Sì. Oggi la commercialista mi dice: siccome che tu il mese di novembre non hai pagato i contributi, non ti danno i 600 euro. Sì. Bene. Quindi significa che l'85% dei commercianti o dei ristoratori che sono nelle stesse condizioni non potranno avere questi 600 euro. E io cosa ho deciso? Non è che oggi mi sono arrivati 8.000 euro tra affitto, gas, luce da pagare. Mi dicono che i mutui sono stati sospesi, ovviamente bisogna fare un modulo. Bisogna fare dei moduli da compilare. I mutui sono stati sospesi. Sospesi. Oggi allora, sono arrivati 8.000 euro tra gas, luce, affitto da pagare. Ma ce li hai i soldi o no? No. E come perché fai? Io dei miei soldi non li metto. Quindi io, per rispondere al governo... Ma guardi che per gli esercizi commerciali credo che siano sospese pure quelle. Ma quale? Cioè, no. Per i privati ma no. Per gli esercizi commerciali... ho capito. Se uno non ha pagato neanche prima... Anche un mese, dice lui. Un mese non hai diritto ai 600 euro. Lui non ha pagato un mese e non ha diritto manco ai 600 euro. Allora, sai cosa faccio? È sbagliato. Che fai? Sì, è sbagliato. Sai cosa faccio? Che fai? No, mese di marzo non mi pagano. Il contratto che metto in cassa integrazione, il primo dipendente scade a maggio. Ti fotte e lo mantiene lo Stato. A giugno, cioè, lo licenzi. Non mi pagano, ne licenzi uno. Licenziato, li mantiene lo Stato. A giugno un altro dipendente non mi pagano, si fotte, lo mantiene lo Stato. Cioè, ne licenzi uno al mese, stai dicendo. Uno al mese se non mi danno i 600 euro. Fermi tutti. La zanzara. Eccolo! Soffia una bella aria in Ungheria, aria sana, aria fresca, che ci riporta ai ruggenti anni del Novecento. Pieni poteri. Vai, Orban! Che poi bisogna vedere se è vero che il Parlamento è stato sospeso. Bisogna vedere. Lo ha detto lui. Bisogna vedere cosa. Ma che sei Benuzzi? Bisogna vedere. Lo ha detto lui. Che devi vedere. L'ha detto. Vediamo. Sospeso sine die. Fino alla fine del. Ma ha detto di più. Quel cane di Orban ha detto una cosa ancora peggiore. Ti segnalo all'ambasciata d'Ungheria. Ha detto che l'opposizione. Ma magari fosse che l'opposizione. Sì. L'opposizione è peggio del coronavirus. Sì, questo ha detto Orban. Questo ha detto. Ma segnalami pure all'ambasciata ungherese. Ma figurati, io sono peraltro con l'amico e comandante Soros per riportare la libertà e lo stato di diritto in quel paese. Contro Orban, mi sembra di capire. Assolutamente. Ma no, mi sembra di capire benissimo. Lo diciamolo, Parenzo, preferisco Soros ad Orban. Ma giusto, non preferisco, non è neanche paragonabile. Non è paragonabile, si la può merda. Dire chiaramente. Lo devi dire, no, non si può dire così perché la merda non la paragoni col cioccolato. Cioè, quindi non pensi è che Orban sia una merda, dillo chiaramente. Ma Orban è una merda. Lo vuoi dire ma o non lo vuoi dire? Di... Devi ma avere il coraggio di dirlo. Ma no, Orban ma è molto una di merda. Ma... No, se ma lo dici ma certamente Orban è una merda, ma stai scherzando? Io preferisco. Ma non è che sono l'unico a dirlo. Io preferisco. Ma non è che preferisco, non lo puoi neanche paragonare. No, però dico preferisco. Ma non lo puoi neanche ma no, preferisco, ma al cubo, no, ma dillo, al cubo. Soros al cubo, al cubo. Cioè tu preferisci la dittatura, che è un Soros che governa in Ungheria al posto di Orban. Ma non governa niente, ma Soros purtroppo non governa, gli hanno chiuso purtroppo, pure la libera università. Gli hanno pure chiuso la ma dovresti dirlo anche tu. La open society, la società aperta è quella che garantisce a te di dire ste stronzate. Dovresti dirlo anche tu. Io non adesso ho detto passa niente. Un'altra telefonata. Luca io non Milano. Sopporto quando fa le conversazioni, poi passa un'altra Luca telefonata. Luca da Milano. Sì, sì. Sentiamo Luca. Grazie Carlo, che ci ha raccontato la sua storia di commerciante in grande difficoltà, perché dice io per una cosa che riguarda delle tasse non pagate chiama o dei Mauro contributi. Meazza. Fatti spiegare stai da Mauro zitto Meazza. Un attimo, zitto, fatti questa, spiegare da Barisoni. La zanzara, Luca la da Milano, sospensione dei mutui. Fatelo spiegare da Meazza. Luca da Milano, mamma mia che noia. Non sapete niente. Luca. Dimmi Luca, dimmi caro Luca, dimmi. Ciao. Allora, io ho sentito l'altro giorno che tu hai accennato alla intimidazione che ha ricevuto Claudio Messora di Bio Blu da parte del patto trasversale per la scienza. Allora sì, senza entrare nei dettagli, caro Luca, io ho detto semplicemente una cosa. Ho detto che ogni a meno che non ci sia un incitamento alla come dire, alla a violare le leggi. A violare le leggi, se uno dice io esco e uno può dire anche io esco se ne assume la responsabilità e se uno dice invito la gente a uscire, allora lì si entra in un campo che è in questo momento contro le leggi. Però nel caso di trasmissioni che vengono trasmesse via web come ma anche trasmissioni sulla televisione mettere in discussione una trasmissione o un sito semplicemente perché ci sono delle opinioni che non sono quelle correnti, diciamo, della scienza, quella comunemente accettata, sia una follia. E dunque io difendo. Ma chi dice che è comunemente accettata? Ma chi lo dice? Vabbè, comunemente accettata nel senso. Ma lo dice. Ma tu naturalmente. Ma che è comunemente accettata? Tu come la pensi? Ma dove sta scritto? Tu come la pensi? Ma non si deve permettere. Tu, Luca, sì, d'accordo. Tu, va bene, d'accordo. Tu che ne pensi di questo virus? Esiste, non esiste? È una buffonata? È una cosa certo che esiste il virus. Il virus esiste, ma però non è, esiste. È grave o non è grave questo virus? E chi lo sa? Ma come chi lo sa? Ma sarà grave, no? Cioè, muoiono delle persone. Ma senti anche Ilaria Capua, quando è stata intervistata da Montemagno, ha detto fino a ieri c'erano due morti. Ma cosa vuol dire? Di questo un po' di tempo fa, un po' di tempo fa. Dunque tu sei convinto è tutto superato sta roba. Tu sei convinto, Luca, scusami Luca, spiegami bene. Tu sei convinto che dunque sia poco più di un'influenza, ci stanno prendendo tutti in giro ma per non lo so. Beh, non ho capito. So. E allora però sei dubbioso sul fatto che questa clausura serva a qualcosa o serve solo per controllarci, perché una delle teorie cospirazioniste è proprio questa qua. Non lo so, cioè sicuramente l'articolo 13 della Costituzione è violato. No, è violato, amico mio, non è violato. La personale deve essere decisa solamente da un provvedimento della magistratura, l'articolo 13 della Costituzione. Sì, ho capito, Luca. Adesso... Non può essere decisa dal governo. Ma non, a parte che adesso non ci mettiamo dentro queste discussioni. E in un periodo di emergenza il governo prende dei provvedimenti emergenziali. Dopodiché lascia perdere la Costituzione. Ma poi il Parlamento, c'è stata la discussione in Parlamento. Ma tu rispetti è costituzionale. Ma tu rispetti queste robe qua oppure non te ne frega niente? Questo c'è da capire. Cioè, le rispetti? Diciamo che cerco di non farmi sgamare, insomma. Vabbè, questo purtroppo è grave, però. Quindi cosa fa? Io mi allenavo 6 volte alla settimana, ti puoi immaginare, chiuso a palestra, la piscina. Ma perché secondo lei a me non farebbe piacere uscire a fare una corsa? Io andavo in palestra 3 volte a settimana, anzi 2 volte a settimana, e una corsa fuori lungo il Tevere. Secondo lei a me non farebbe piacere farlo? E che sono più coglione degli altri quando sto a casa? Guardi, io corro da sempre da solo. Detesto i gruppi che io definisco di rane, cioè i runners. Però scusami, Luca, dunque tu cerchi sostanzialmente di aggirare queste norme, di eludere. Cerchi di non farti beccare. Vabbè, insomma, ognuno fa quello che vuole. Per me è una questo hai detto prima. Non ti preoccupare, che non ti segnalo alla polizia, per cui non ti preoccupare. No, puoi dire il cazzo che hanno appena deciso finalmente di concedere l'ora d'aria ai bambini, almeno loro poverini. Ma è un'altra follia questa qua, secondo me, un'altra cosa folle. Ma perché? Ma è una roba senza senso, perché se tu cominci a dare questi piccoli permessi, succede l'inferno, succede l'ira di Dio. Il problema dell'italiano, è la culpa. Cioè, nessuno sa stare da solo. Impariamo a stare da soli, in casa o fuori casa. Scusami Luca, ma tu sei vaccinato o no? Cosa. Sei vaccinato, cioè credi nei vaccini oppure no? Tanto per capire. L'hai fatti o no? No, io sui vaccini ho una mia posizione ben precisa. Cioè? Sono assolutamente contrario a quella erga omnes. Vabbè, sei uno di quelli che dice l'esavalente. Quello che farei io. Io farei decidere a ogni singolo pediatra. Per ogni singolo così succede, bambino. Così succede l'ira di Dio, dai, su, amico mio. Quale l'ira di Dio? È il signore che decide, però deve essere anche finalmente responsabile. Grazie Luca, grazie. Prego. Comunque ragazzi, ricevo un sacco di mail di persone cui il mutuo non è stato sospeso per niente. I mutui non sono stati sospesi, mi hanno appena addebitato la rata, mi scrive uno. Ragazzi, magari questo non è stato bravo a fare. Ma il decreto di poco tempo fa, però, scusami, questa è una delle. Ma chiedi, ma davvero è così? L'hanno scritto tutti i giornali. Andrea da Napoli. Andrea, dimmi. Salve, io penso che ci saranno molti più morti perché siamo chiusi in casa piuttosto che a causa del coronavirus. Perché stare chiusi in casa fa malissimo. Lo stanno dicendo da qualche giorno che c'è un problema effettivamente per le persone rinchiuse dentro casa. Perché ci sono moltissimi asintomatici che si trasmettono all'interno del nucleo familiare il virus. E che dobbiamo fare, Andrea? Ma io dico anche fa malissimo proprio dal punto di vista fisico e psichico. Cioè, amico mio, psichico sicuramente. E fisico non lo so, c'era un vecchio negazionista che abbiamo ormai, mi sembra che siano passati 3 secoli, 15 giorni fa, che abbiamo sentito, ti ricordi quello là che vagava con la bicicletta ogni giorno, che diceva che stare in casa, anche Vanoli, quello dell'urinoterapia. Sembrano 3 secoli fa, perché tu sai che ogni anno della zanzara vale 20 anni per una persona normale. Non pensa quanti questo. Anni ho io, anche perché sono anche 10 giorno... anni che facciamo questo programma, quanti anni ho ormai io? Un anno della zanzara vale 20 anni lavorativi di una persona normale. Ma non c'è solo questo, anche un giorno dentro per il coronavirus vale una settimana, secondo me. Vabbè, Andrea, non lo so, amico mio, non lo so, che ti devo dire. In casa certamente si sta male, non si sta bene rinchiuso in casa, ma che cazzo dobbiamo fare? Iuri, provincia di Brescia, vai, Iuri. Certo. Iuri, provincia di Brescia, Natalino, provincia di Treviso, tranquilli. Natalino, ciao. Provincia. Dimmi, Natalino, dimmi. Ciao, spero mi sentiate bene perché io sento poco voi, ma comunque. No, io ti sento benissimo, per fortuna. Ottimo, cerco di stare fermo. Io, come molti italiani, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Sì. Ma io personalmente non per paura del virus, per paura della gente che vedo sta delirando e a volte delira perché ha paura del virus effettivamente, altre volte delira perché ha la scusa del virus e quindi coglie la palla al balzo per dare il peggio di sé. Secondo me i giornali, le televisioni e i politici, faccio un nome a caso, Luca Zaia, dovrebbero dire, visto che i dati adesso cominciano a migliorare, aiutarci a vedere la luce in fondo al tunnel e dire vedete, è servito, eccetera, eccetera, incoraggiarci a continuare. E invece ci fanno fare la guerra tra poveri, per cui noi andiamo a caccia degli untori, fotografiamo chi passa per strada. Vabbè, ma quello se uno lo vuole fare lo fa, se uno non lo vuole fare non è che c'è l'obbligo di denunciare, eh. Cioè, questi qua, questi imbecilli di Pozzuoli, questi imbecilli di Pozzuoli si sono denunciati da soli perché hanno loro stessi diffuso i video là. Non è che se uno va a comprare il giornale non è che si deve sentire un criminale, va a comprare il giornale, è consentito per le edicole, perché le edicole sono aperte, poi prende il giornale e se ne va a casa, punto e basta. Cioè, certo, ma non è che lo puoi fare 10 volte al giorno, perché ci sono persone che si presentavano e tuttora si presentano davanti all'alimentari o al supermercato 3-4 volte al giorno perché vogliono uscire a fumare la sigaretta, la fumino in casa, la fumino sul terrazzo e non rompano i coglioni, punto e basta. Ma dai, io questi no, siccome sto in casa, se volete uscire prima, se poi volete rimanere tappati in casa per il virus per 3 mesi, allora fate il cazzo che volete, andare in piazza a ballare come quegli imbecilli criminali di Pozzuoli, dai. Domenico da Modena, dimmi. Ciao, volevo ringraziare Parenzo per le bellissime figure di cacca che sta facendo con le dirette online da casa. È stato grazie, una delle cose prego. Più belle di tutta la settimana. Lo vedi, però l'hai vista e ti sei quello divertito. Fa piacere. Allora, quello mi fa piacere. Poco, mi fa è piacere. Riuscito a prendere due di picche, farsi azzittire dal figlio, lustrare i vari euro. Ma quella è la verità. Ma quella è la verità. Non hai visto il mio ultimo video che ho fatto? L'ultimo video è il pollo violato. Ho fatto la ricetta e ho violato il pollo. Persone dell'Agenzia delle Entrate segnalano che i mutui per la prima casa non sono stati sospesi, solo quelli per le imprese. Ciao. Allora, intanto continua a impazzare, ragazzi. Io vado i vado mutui per le imprese, quindi l'ascoltatore di prima era. No, ma era l'ascoltatore di prima, che era un commerciante, mi pare, no? Sono tutto dimenticato, tutto è già finito. Andiamo avanti, allora sentiamo un altro ospite. Tutto finito. Tra poco c'è un ospite. Non ci sono ospiti. Don Fanzaga. C'è gente che urla. Continua a impazzare Don Fanzaga. Io vado ai matti, ragazzi. Don Fanzaga, per carità, deve impazzare. Non siamo in Ungheria, deve continuare a trasmettere. Ha voglia se deve continuare a trasmettere anche per il nostro godimento. Non tutti i mali vengono per nuocere, ci dice Don Fanzaga. Come si sa, non tutti i mali vengono per nuocere, cioè voglio dire, abbiamo qualche tempo in più per la riflessione, per ancora la preghiera, come Conte, per interrogarci sul senso della vita, sulla nostra situazione esistenziale anche davanti a Dio. No, questo è come Conte, questo è il contagio di Conte, il virus Conte sulla riflessione che prende anche Don Fanzaga. Non tutti i mali vengono per nuocere. Sì, tutto viene per nuocere. Non è che la colpa è dell'uomo e dell'umanità, come dice qualcuno, e dunque dobbiamo riflettere sui nostri mali. No, è tutto negativo, come direbbe anche un altro mago. Vedo tutto negativo. Tutto negativo, no? Vedo tutto negativo. La giusta impostazione è pregare, dice Don Fanzaga. Scusate, ma la Madonna cosa ci ha detto? Cosa ci ha detto? Ci ha detto, guardate cosa ci ha detto, se siete coraggiosi e decidete per la santità, vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Cioè, questa è sì che è la vera impostazione delle cose, da parte del cielo le cose si vedono come sono. No, da parte del cielo non si vede un cazzo. Non vedono un cazzo dal cielo. Nulla dal cielo. Dal cielo non so che succede, io non lo so, non ci credo, però chi ci crede può immaginare quello che succede. Ma non è che dal cielo vedono quello che accade. Non vedono un cazzo. Poi questa più grossa, se ci convertiamo termina la pandemia. Parenzo, convertiti anche tu, ti prego. Convertiti anche tu. Carità. Convertiti, ma così finisce carità la pandemia. Ma non ci penso minimamente. Questa è buona per fare. Minimamente. Mi è venuta un'idea su questa cosa della conversione. Vogliamo uscire fuori da questa pandemia? Convertiamoci. Torniamo a Dio. No. Se tutti tornassimo a Dio, non ci sarebbe più neanche il tempo dei segreti. Non ne usciamo fuori, andiamo verso una deriva spaventosa per quanto riguarda il futuro dell'umanità. Perché Dio non lascia il mondo nelle mani del demonio. La roba, ragazzi, incredibile. Poi dice anche di fare il digiuno. In questo periodo fare il digiuno. Come uno sta dentro casa, fa il digiuno. Ma che cazzo di digiuno è fare? Ma io l'ho casa? Fatto un giorno, l'altro giorno. Ma l'ho tu fatto sei malato di mente, un altro discorso. Uno sta dentro casa, l'ho giustamente fatto, almeno magna. Cioè, uno magna dentro casa, no? Dai, su. Ancora. Il mondo senza Dio naufraga, il virus è una grazia. Guarda, se ha detto veramente il virus è una grazia, mi incazzo. Faccio chiamare a rotta di collo, tanto la gente non ha un cazzo da fare, Radio Maria per farlo attaccare, per attaccarlo. Se il virus è una grazia, devo sentire bene, fammi sentire. E la Madonna in questi 38 anni ci ha detto fin dall'inizio che il nostro progetto di costruire un mondo nuovo senza Dio sarebbe naufragato. Questo è esattamente quello che sta accadendo. Cioè sta naufragando un mondo senza Dio, e in questo senso possiamo dire che quello che noi riteniamo una disgrazia potrebbe anche essere una grazia. L'ha detto. Cioè l'ha detto sul serio. Siccome sta colpendo un mondo senza Dio, perché secondo lui il mondo ha abbandonato Dio, secondo il direttore responsabile folle. Di Radio Maria, seguito da una moltitudine di folle. Folle. Ma tu ti rendi conto? Quello che potrebbe essere. Sì, incredibile. È pazzesco. Dio interverrà. Alla fine, poi Dio guarda quello che c'è nei cuori. Se vede che i cuori si rivolgono a Lui, non dobbiamo dubitare che interverrà il nostro aiuto. Questo voglio inquadrare proprio anche la cronaca in questa luce di speranza, che è una luce soprannaturale. Una roba pazzesca. Sì, io vedo molto negativo. Ho capito, io pure vedo molto negativo, sì, amico sì. Mio mago, però questo dice che è una grazia il virus. Dimmi tu se uno non si deve incazzare, se non deve chiamare il centralino di Radio Maria per mandarlo a fare in culo questo signore Sergio Dalla Dina. Adesso magari questa è una protesta estrema, ma vediamo chiamare la segreteria, il centralino di Radio Maria, per dire: senta, il virus non è una grazia, vada a fare in culo Sergio Dalla Dina. Non è un'offesa. Vabbè, adesso questo non importa dire così, vada a fare in culo. Non lo so, ognuno dice quello che vuole. Dire parolacce, Sergio, ecco, eviterei, perché questa non è una parolaccia, questa roba qua. Questa è peggio di una parolaccia. Io userei la grande arma gandiana e non violenta, e quindi quella di chiamare ininterrottamente e poi chiudere, chiamare e chiudere. Protesta gandiana non violenta. Chiamare e chiudere. Esatto. Sergio, chiudere, impazzito. Esatto. Dimmi Sergio. Sì, no. Tra poco chiamiamo la signora Mussolini. La signora Mussolini. Ah, mamma. Scusa Giuseppe, ma un'altra cosa grave è quella che tu sostieni, che quel sozzone di Briatore, quell'infame evasore fiscale. No, ma che evasore fiscale? Ma adesso uno perché ha fatto una piccola infrazione, non so, anche lì. Ma non ho capito. C'è un criminale, lui. Noi se ci troviamo in questa situazione. Ma sei tu un criminale? Sei tu un criminale? Non pagano le tasse in Italia. Ma chi è che non paga? Che c'entra? Quello è residente. Dov'è residente? Ma lascia perdere il Briatore. Ma quale residente? Dov'è? Un pezzo di merda. Ma sarai tu vedere. Un pezzo di merda. Quelli che guadagnano un milione al giorno e ne vanno a guadagnare due. Ma perché ti stanno sui coglioni? Gente, tanto. Ma perché ti stanno sul coglioni ricchi? Perché ti stanno sui coglioni ricchi? Perché tu mi non sei ricco. Sui coglioni perché più ce n'hanno e più ne vogliono guadagnare sulla povera gente, capito? Noi se ci troviamo in questa situazione è perché la grande cosa che quelli che c'hanno in mano loro, cioè il grande potere. Ma che grande potere loro, di che? Di come? Ma di che parli? Io però senti Giuseppe, io aspetta, devo chiamare Mussolini, devo euro al mese, ma tu e io sono più felice di quel pezzo di merda. No, ma lascia perdere, che ogni notte pensa di guadagnare di più. Amico mio, la felicità non è una questione, però i soldi sono importanti cosa, pure per la felicità. Per me il presidente del Consiglio Conte lo deve denunciare, quel criminale. Ma non ha detto quello è criminale. Ma che criminale? È un pezzo di merda. Ancora insisti, ancora. Perché insisti te, perché gli dai ragione, ma tu certo. Sei come lui allora. Ma che ci dico, ragione su alcune cose, sì, su altre gli no. Gli hai ragione, tutti quanti hanno applaudito quando ha detto che Conte è un criminale. Ma non ma ha detto che è un criminale, ha detto fai parlare Giuseppe. Questo povero Cristo è diventato presidente del Consiglio 2 anni fa, è crollato un ponte, sempre dei colleghi suoi di Briatore. Ma quali colleghi? Di che cosa? Ma quali che io li carceravo tutti quanti i Veneto, ha capito? Sì, li devo carcerare. Sì, carcerati tutti al gabbio. Sì, devono carcerare. Tutti al gabbio. 34 persone. Ma quello è un altro discorso. Perché loro quando spendono i soldi vanno guadagnare di più. Ciao Sergio, ciao. Allora, la signora Mussolini, l'altro giorno, ospite del programma della D'Urso, tra l'altro c'è una incredibile raccolta firme credo che siamo arrivati a 35.000-40.000 persone per chiudere il programma della D'Urso su change.org. No, e perché mai? La gente non sa che cos'è la democrazia. Cioè, la gente non sa che esistono trasmissioni fatte in un certo modo e trasmissioni fatte in un altro modo. Ma cazzo volete? Certo, ma non rompete i coglioni, ma che sospendi? Non la perché vedi? Non la vedi e non rompi cazzo, no? Cambi canale, che ti frega? Certo. La Mussolini, nella stessa trasmissione della D'Urso, ha detto una cosa. Ha detto che ha un po' di dubbi sull'origine del virus. L'origine in laboratorio del virus. Noi vogliamo negare che a Wuhan c'è uno dei più grossi laboratori di virologia. Ma cosa c'entra, Alessandra? Come c'entra? Ma si parlano di fatti seri, documentati. No, io se no sto è dietrologia. Che ma cosa vuol dire? Io lo sai perché ti dico che no dietrologia? Perché gli scienziati sanno che bisogna risalire alla natura del virus per sapere il decorso naturale. Se è stato manipolato non c'è ha la il traccia. Decorso naturale come c'è la traccia, rimane la traccia. Ma che traccia? Ma rimane la traccia, possiamo rispondere il professore. Alessandra, qui Zanzara, come stai? Bene. Mi sembra di capire, Alessandra, che tu sei un po', sei un po', non dico complottista, però... Ah, sicuro! Guarda, allora, ascoltami molto no, bene. Ti prego. Sì, però fatti sentire bene con la voce, sennò sentiamo male. Ti prego, Alessandra, ti prego. Mi senti? Sì. Ascolta, non credo che sia una situazione normale. Noi siamo in un assetto di guerra, non è mai successo. Perché la Gismondo, che è dell'ospedale Sacco, oggi dice pare che ci sia, che non si possa escludere innesto dell'HIV? Cioè, sai che cosa fanno su un virus? Perché è un virus naturale con una catena di RNA normale, cioè un virus normale, ma loro come fanno a potenziarlo? Indebolendo l'ospite. Se tu ci infili dentro un pochino di una proteina che attacca e ti indebolisce il sistema immunitario, è tutta ammazzata. Cioè, secondo te, dunque, mi pare e di capire perché sono venuti i russi che sono specializzati nelle armi biologiche. Perché sono venuti? Adesso chi è stato, non lo so. Però secondo te c'è stata una manipolazione dell'uomo? Assolutamente, io penso. Ma fatta da chi? Una perché? Cosa così non è possibile. Fatta da chi? Perché? Fatta da chi? Questo, ma siete voi, ma io mi meraviglio di voi. Io non capisco perché adesso, se uno solo sospetta questo che è vero, possa questo essere è vero. Stato un virus manipolato, diventi uno stronzo, uno che non è vero, sei un terrorista, sei un complottista. Ma ci vogliamo interrogare per quale motivo siamo tutti il mondo in un assetto di guerra? È mai possibile che Wuhan, perché si è diffuso, quando perché io si chiama ho pandemia, detto in televisione pandemia, a questo chiama. Scienziato, dico ma perché non è vero che a Wuhan c'è un laboratorio enorme di virologia? Sì, e il medico che è morto dunque, nel 2018. Perché qual è la tua tesi? Che cos'è che hai pensato? Diciamo la verità, Alessandra, tu hai pensato che i cinesi... Ho pensato che questa è un'arma biologica di sterminio di massa, questo è quello che ho pensato. Arma che biologica prodotta da chi? Da un laboratorio. E sai che penso pure? Che tutti quelli che adesso stanno, i pazienti, perché li devono portare in Germania? Li stanno studiando. Perché sono venuti i cinesi qui, i medici? Perché? Perché ci vogliono dare una mano? Perché? No, perché vogliono vedere sul campo come si sta comportando questo bel virus che hanno creato. Cioè, secondo te i pazienti portati in Germania è per vedere che reazioni ha avuto il virus? Ma medici hanno perché portato no? Perché no? Beh, oddio, perché? Ma quelli perché sembra una perché follia, perché ce l'hanno anche che loro. Questo sia un perché virus ce l'hanno fuggito. Anche in Germania. Ma no, sì, perché anche in Germania hanno il coronavirus, pure in Francia. Senti, questo virus è il coronavirus, la famiglia di coronavirus e va bene, che dà raffreddori, che impegna le vie aeree superiori, giusto? Da questo virus, che non ci credo proprio, dei pipistrelli, dà una polmonite atipica che non puoi curare. No, allora perché stanno mettendo in mezzo il virus dell'HIV, i farmaci anti-HIV? Perché dentro al virus ci sono delle proteine che sono simili a quelle dell'HIV. Tu tra l'altro sei un medico, no? Mi sembra di non fai ma più da tanti io, anni. Medico non medico, ma perché voi non vi fate una domanda? No, ma io infatti tutte le ipotesi sono possibili. Però uno non è che deve essere trattato, dici tu, come un terrorista, no? No, ma scusami. Se fossi un giornalista, una domanda me la farei. Ma perché non ci sono gli esperimenti sui virus? Perché non sono mai stati fatti? Ho capito, ma chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Che vantaggio ha secondo te? Ma questi sono delle armi biologiche, ma che pensi che nella gente non ci sono le bombe e ci sono le armi biologiche? Ma perché questo non esiste, lo dico ma qualcuno l'ha fatto apposta per guadagnarci, che cazzo ne so, una cosa di questo tipo? Qualcuno? Ah, beh, ma certo, perché è un'arma, certamente, questo sì. Ma secondo te è sfuggito oppure qualcuno l'ha diffuso apposta? Questo è l'altro passo. Ma che ne so io? Io sto dicendo che questo virus così anomalo non ti convince, no? Una cosa naturale non ti convince. Come uno stato di guerra non mi convince, no? Qualcuno dice che il governo Conte andrebbe incriminato per avere sottovalutato questa cosa qua. Tu che dici? No, io posso dirti una cosa, guarda, io non sono certo a favore del governo Conte. Si è trovato in un momento il più grave che possa essere nella storia, cioè questo è come peggio di un conflitto mondiale, cosa incredibile. Quindi secondo me il governo sta facendo quello che può, non mi sento di criticare assolutamente, l'unica cosa che mi sento di criticare è quello che vorrei, questo, mandare a cagare l'Europa, questo sì, questo l'Unione sì. Europea come? Andasse a cagare. Beh, ottimo, bellissimo, questo sì. Ma che vuol dire l'Unione Europea? Che non mancano le maschere, ma prendiamo la palla al basso e diciamocene in questo momento. Tu dici prendiamo la palla al basso, lasciamo la Germania e i paesi Visegrad con l'Unione Europea, se la e noi che vantaggio avremmo, scusa? E per noi che vantaggio ci sarebbe, scusa? Ma perché ti stanno tutto aiutando? Ma certo, tutti i vantaggi c'hai, altro che. Ti stanno aiutando. C'hai il bazooka della BCE, ma puoi sforare il patto di stabilità. Che non sa, ma che fanno la centrale unica degli ma acquisti BCE? Per le mascherine. Ma che ci stanno facendo? Non ci sono aiuti, addirittura aiuti ma materiali, le mascherine, ci rubano le mascherine alla dogana. Ma infatti è intervenuto il commissario interno alla concorrenza. Guarda, l'Unione Europea è morta con il coronavirus, questa è stata proprio defunta in questo momento. Prendiamo la palla al basso per cambiare le regole e fare come cacchio ci pare. Poi quando è finita l'emergenza si vede, cari, cioè in questo momento avere i dubbi è un momento di vivacità. Essere certo, quando uno dice ma questo forse questo virus, assolutamente, ha detto Lancet, ha detto Nature che non c'è, invece che facciamoci venire questo bel dubbio? Andiamo a vedere perché sono morti i medici che non possono parlare, quello che è successo a Wuhan, perché vengono i cinesi a studiare, facciamoci venire sto dubbio. E poi mi sono sbagliata, sai quante volte mi sbaglio? Ma la Cina va incriminata o no, secondo te, per epidemia colposa, per avere nascosto per un po' di... La Cina sa. La Cina dovrebbe dire quello che sa. Tu dici, non è possibile che è stato manipolato, se no avrebbero l'antidoto. Non è vero, ma non è detto. Vabbè. Non è detto. Fanno esperimenti, ci volete dire che avete fatto, che è sfuggito di mano? Allora... il servizio che è uscito a Rai 3 che li hanno crocifissi come si sa che hanno fatto, invece è tutto vero, potrebbe essere tutto vero, può essere vero. Allora ci dicessero, noi prima facciamo finta di perdonare, poi lo sappiamo noi quello che dobbiamo fare. Vabbè. Noi dobbiamo mettere in croce. Sì. Ciao Alessandro, in croce, ciao in croce. La Zanzara. Buongiorno a tutti, scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza, un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte! Buongiorno a tutti, scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Il pianeta, più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Il pianeta. Tutti insieme ce la faremo. Vi ricordate King Kong con i peli, cioè voglio dire, no, quella roba là che ha fatto tanto ridere, che ha fatto, e a me ha fatto pure piacere, perché c'è bisogno, Dio sa se c'è bisogno di ridere, ma c'è chi veramente pensa più a quello che ad altro, perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capilli e fe, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavutu chiudono? L'avete capito che chi cazzo da davvero per sti capilla giustamente utavutu? Perché se una viene in casa tua, se una viene in casa tua ed è venuta in casa mia, è venuta in casa di un'altra a fare i capelli o un'altra, ma l'hai capito che ti puoi portare o posto da lac, ti porto o virus corona, quel che ti dico se non capa così, o non l'hai capito? Io non lo so, cioè voglio dire, lo accendiamo questo benedetto cervello o non lo accendiamo? Grande Tutolo. Cioè, è impossibile resistere senza farsi la permanente? E cioè, non ce la si fa proprio. Chi cazzo vi deve guardare? Cioè, quando stiamo in casa, no? Stiamo tutti quanti, quando stai in casa mi metto un pigiama a dolce di carro fino in canna, no? Mugliero altrettanto, quello è qua, cioè... Ormai voglio dire, siamo in quella condizione. Chi cazzo va da guardando, Beh, però qui si sbaglia, Tutolo. Perché adesso, facendo la sintesi di questo meraviglioso pugliese alternato all'italiano del sindaco di Lucera, provincia di Foggia, si capisce che è incazzato con alcuni suoi cittadini che fanno venire i parrucchieri dentro casa. E lui dice che cazzo servono i parrucchieri dentro casa. Ha ragione, naturalmente. Però certo, non considera l'aspetto social, cioè le persone sono continuamente connesse, dunque sostanzialmente è come se fossero fuori, cioè si devono presentare, secondo loro, con un aspetto decente. Per questo si incazza. Dunque non è questione chi ti deve vedere, anzi, se lui poi si mette col pigiama, come ha detto, io e mia moglie ci mettiamo col pigiama fino alla testa, e vabbè, sì, d'accordo, però allora, prima di questo grande scontro tra Silvano e Francesco, due camionisti meravigliosi che sono di idee completamente diverse, voglio dirvi una cosa. Un'associazione femminista, non una di meno, associazione molto conosciuta, penso che l'abbia cancellata dopo, abbia cancellato questo post. Pensate di cosa si preoccupano queste signore. L'autocertificazione inclusiva di non una di meno. I modelli di autocertificazione si avvicendano, ma sono tutti rigorosamente declinati al maschile. Quello che viene chiamato maschile universale, ti giuro, e che nella lingua italiana ci viene propinato per che neutro, follia, è in realtà un chiaro segnale di chi sia a dominare e a perpetrare lo status quo. Non possiamo scendere in piazza, ma portiamo avanti le nostre lotte anche nel campo del linguaggio. Diffondiamo, come non una di meno, una versione con asterischi del modulo di autocertificazione. Ma tu ti rendi conto o no? Ma e hai sempre difese queste una qua. Follia. Lei sempre ma difese. No, capito, ma qui bisogna dire che è una follia. Ma no, questa è una follia assoluta. Francesco assoluta. Da Matera. Il ministro dell'interno è una donna, vabbè, peraltro, la dottoressa Lamorgese. Ma tu sei la slinguare alla Lamorgese, dalla mattina alla sera. Piace molto la dottoressa Lamorgese. Mi piace molto che sia una prefetta, la dottoressa Lamorgese. Oh, se vi piace la dottoressa Lamorgese, sì, che ti carità, devo dire? Ma ognuno fa quello che sobria, vuole. Sobria, tranquilla, non, preferivo, è lì con le, non gira con le magliette, non va all'interno. Al papete. Lo so, non gira con, no, con le felpe, con scritto. Preferisco uno eletto dal popolo piuttosto che un prefetto, io, però. Lei è stata eletta, non mi nominata comunque dal i prefetti non mi piacciono. Nominata dal ma Parlamento. Sì, certo, dal Parlamento, ho detto che è illegale. Quindi, allora, Francesco, quindi, che cosa... E non gira con quelle felpe col nome della sì, vabbè, città, soprattutto. Certo, perché lei sa dove si trova. Lei non ha bisogno di andare a Varese. Francesco? Ci sono. Allora, che cosa pensi di Silvano? Tu non ho capito bene ieri. Che cos'è che pensi? Cosa penso di Silvano? Che è una grandissima testa di cazzo, perché come buon fascista non fa parlare, non capisce. Ma perché una testa di cazzo? Spiegami perché. È una testa di cazzo perché non è inaccettabile che uno non capisca il discorso che faceva il compagno Pacola. Ma dove cazzo? Se lui andava in Germania, andava lì, aveva tutti i comfort del cazzo, se mangiava i panini li mangiava perché voleva risparmiare, che era un piozzone. Anzi, essendo un piccolo padroncino doveva incassare ancora di più. Silvano, per... Silvano, rispondi a Francesco. No, ci sono. Eccoci qua, grande Silvano, dimmi. Hai sentito Francesco? Sì. Allora, io ieri sera non avevo seguito la trasmissione, l'ho risentita nel pomeriggio. Sì. Innanzitutto, questo personaggio dovrebbe chiedere scusa per aver detto... Figlio di puttana. Ecco, vabbè, questo prima, amico, si parla. Pure tu ne dici lasciamo tutti i colori. Lasciamo stare i titoli, per favore. E dopo il discorso è semplice. Avevo solo detto a Paco che nessuno muore perché mangia i panini. Giusto, non giusto. È il discorso di risparmiare o non risparmiare. A volte ci sono difficoltà anche a trovare dei ristoranti in giro. Però Silvano, non ho capito che cosa, qual è la colpa che ha Silvano, Francesco? Perché gli dai fascista? Io fascista di sicuro non lo sono. No. Paio di maniche, così ti spacciavi per ieri sera. Comunque ti volevo dire che il discorso non si può accettare, che non c'è nessuna sicurezza. Paco, il discorso che faceva non era per il mangiare nella macchina il panino, anche protestava anche per questo. E tu gli hai dato a Silvano del figlio di puttana, diciamola tutta la realtà. Io gli ho dato a Silvano del figlio, è un figlio di puttana perché non può non accettare quelle cose. Si vuole paragonarsi con uno che è lui che ha fatto l'estero, ma dove cazzo stai con queste cose? Qua si parla della sicurezza, io non scopo da 2 settimane perché volevo la sicurezza il Presidente della Repubblica ma che ce ne frega che non scopi da 2 settimane, scusami, il tampone per forza, io quando arrivo a casa devo farmi il tampone e poter scopare a casa tranquillamente, liberamente, e questa è la sicurezza che lamentava Paco. Ma con chi è che non scopi da 2 settimane? Non ho capito, con tua moglie? Con la tua compagna. Silvano, hai capito? Hai capito, Silvano? Sì, ma cosa c'entra il tampone? Cosa c'entra il tampone col discorso che abbiamo fatto? Fascista, già perché chiama Paco compagno? Forse ha avuto male perché ho detto che i sindacalisti sono tutti lazzaroni, comunisti. Sì, certo, ci volevano i comunisti, ci volevano quelli come te che stavi bene 2 anni fa con il governo di 2 anni fa, che rubavi, quante evasioni fiscali hai fatto? Ecco dove volevo arrivare, spermati un momento. Allora, io sono 33 anni che sono improprio. Sì. Se il signor Francesco viene a casa mia, si porti pure la finanza. Io gli posso presentare tutte le lettere di vettura, le bolle di 33 anni, tutti i dischi. Ma perché dovrebbe aver evaso le tasse? Non ho capito, Francesco, perché dovrebbe essere un evasore Silvano? Spiegami, Francesco. Cosa? Gli unici che non possono recuperare un centesimo dell'IVA e del tutto quello che pagano la classe operaia. Questi qua i padroncini hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Ma se Silvano dice che ha pagato tutte le tasse, perché li devi rompere i coglioni? Ha pagato le tasse, ma qua che cazzo lo dice lui? Volevo vedere come. Scusami, Silvano, Francesco sostiene che da 2 settimane che non scopa perché dice ha paura, penso di trasmettere. Ma questi non sono affari suoi. Forse lui è 2 anni che non scopa. Forse, Francesco. Dice lui, tu rubi il posto di lavoro agli altri che hanno diritto, ha bisogno di lavorare. Questo... i giovani, vattene in pensione, Pellegrino, che non sei altro. Se stai a 30 anni che stai a lavorare e ancora rompi i coglioni in mezzo alla strada, perché uno non può. Silvano, rispondi un attimo, Francesco, che ti vorrebbe sul divano e basta. Ma no, ma lui sul divano che è rincoglionito, io non so quanti anni ha. Ne ho 64, ma vado ancora a lavorare volentieri. Lui che è rincoglionito deve stare a casa. Ma non ho capito, sì, Francesco, capito. Perché deve stare a casa Silvano? 64 anni, ancora voglia di lavorare? Perché lascialo lavorare. Perché ha voglia di lavorare, usasse le leggi che ci sono e dia spazio agli altri. Non è che c'è bisogno, ci sono i giovani che sono disoccupati. Che cazzo fa? Evaso una vita. Ma perché dici che ha evaso? Perché tutti i padroncini hanno fatto questa tarantella qua. Lui li può raccontare a chi vuole queste cose qua. Ma non a me, al 100%. Silvano? Io ho anche un dipendente e ho la responsabilità di questa persona. Per cui... Se io vado in pensione definitivamente, chiudo. Questo signore, tanto di cappello, tanto di cappello a questo signore lavoratore. Sì, giusto, giusto. Scusami. Io cosa gli dico? Cosa gli dico? Ti manca un anno andare in pensione? No, io voglio vedere come ti preoccupi adesso che non può mangiare, non può cagare nelle ditte dove quello che facevi tu. Cosa gli dici adesso al tuo dipendente? Quando lo mandi a scaricare in qualche posto, arriva lì. Io mi preoccupo invece. Usare. No, quello non si può usare, in autogrill non puoi fermarti a mangiare. È la realtà, questa è la realtà che mi racconta, è la realtà che mi racconta. Allora Silvano, voglio capire a Bergamo come te la passi tu, perché a Bergamo ci sono un sacco di morti, sei preoccupato? Guarda, io sono settimana scorsa non ho lavorato, questa settimana neanche, perché in Inghilterra c'è tutto sto problema quasi come da noi. Allora mi sono fermato. Vabbè. Però qua dove abito io, bene o male... Si tira avanti, hai capito? Si sente conoscenti, morti. Parenti di parenti che purtroppo non ce l'hanno fatta, amici in ospedale, lo so. Purtroppo qui non possiamo fare niente. Ti abbraccio, ciao Silva, ciao. Anch'io, ciao. La Zanzara. David, Natania, da Casa Parenzo. Ho bisogno di Sorca. Noi stiamo facendo uno sforzo incredibile per supplire alle carenze che si stanno rivelando nelle varie strutture ospedaliere, perché ovviamente questa epidemia non era attesa. Siamo pronti noi in Italia? Siamo prontissimi, ci siamo costantemente, continuiamo costantemente a aggiornarci con il ministro Speranza. Dovete tener conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri, ancora più incisive. E da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili. Quando? Allora, Gibril dalla provincia di Pisa, avanti tutta, dai. Gibril, signor Gibril. Sì, Gibril. Dimmi, Gibril. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Vai, Gibril, vai. Buonasera, caro amico, vai al punto, dai. Allora, il punto è che a me non mi è piaciuto come avete abbordato il problema della cura, del... Quale cura? Quella cura che... Il farmaco, quello della clorochina? Bravo. In che senso? Non abbiamo detto un cazzo noi, abbiamo semplicemente riportato quello che dicono gli altri, noi non abbiamo detto un cazzo. No, non lo so, mi verrebbe voglia, dopo quello che ho sentito da Meluzzi e soprattutto da Burioni, di andare a fare una scorta di questo farmaco. Perché no, oggi no, leggo... Il problema non è questa, rende la cosa molto... Ma te lo deve prescrivere il medico, scusa. Ma che perché medico? Mai? Dimmi, allora, Gibril, dimmi. Fermo. Il problema è che lì a Marsiglia c'è uno dei migliori professore che il mondo conosce. Sì, lo so, un signore con i capelli un po' lunghi, un po' bizzarro. Che si chiama DJ Raul. Sì, DJ Raul, benissimo. È signor... una persona molto seria. Sì. E allora? Un chilometrico. E allora? Non è un pinco pallino che parla. E allora che vuoi dire, Gibril? Che vuoi dire? Allora, io ti presento la persona che ha detto quello che ti voglio dire. Primo. Ma perché non ho capito. DJ Raul... ha fatto mille pubblicazioni nei ma momenti. Lo so, ma cosa vuoi dire, Gibril? L'abbiamo già detto. Voglio dire che lui, DJ Raul, ha sperimentato già da gennaio. Sì. Da gennaio. Ma lo so benissimo, l'ho già detto. Che cazzo vuoi in più? Dimmi. Lui fa parte pure del Consiglio di Stato in Francia. Vabbè, allora... E la tua cura funziona al 100%. Ma che 100%? Ma scusa, ragazzi miei, se davvero questo farmaco qui a base di antimalarico, diciamo, che viene usato per combattere la malaria... Questa farmacia esiste da 50 anni. Ma ho capito, questo farmaco, non farmacia. La farmacia non può esistere da 50 anni. Sì, farmaco. Questo farmaco esiste da 50 anni. Ti pare normale che un farmaco che esiste da 50 anni guarisce dal coronavirus o addirittura lo stoppa? Ora lo testeranno. Dai, ora avranno bisogno di un po' di casi per testarlo. Ma cosa sei tu? Un giornalista o un virologo? Sì, ma non lo so, amico mio, non lo so. So solo allora stai zitto se non lo sai. Ma vai a fare in culo, Gibril. No, vai a fare in culo te. quando non sai, signor, le cose, Gibril, non devi dire nulla. Ma l'ho detto zitto prima che lo so. Ma secondo te, se fosse così, non ci sarebbe già la fila davanti, non alla è farmacia? Vero che, non è così, perché ci sono interessi grossi su questa cosa. Ecco, lì voglio arrivare. Voi pensate che questo farmaco non venga diffuso perché ci sono i grandi interessi delle multinazionali? Ma non è vero, ma perché se no, scusa, Burioni non l'avrebbe detto. Gibril, questa è una follia. Scusa, che mestiere fai tu, Gibril? Che mestiere fai? Faccio camionista. Ecco, il camionista, benissimo, un mestiere assolutamente, assolutamente degno, però non sai un cazzo, ne sai ma quanto me all'inizio. Tu, però non sai un cazzo, non sai un cazzo. Ma io non so, io sono un giornalista forse, ma non è questo il punto. Il punto non è cosa sono io. Il punto è che io avevo letto anche prima di te che in Francia stanno diffondendo, questo signore dice che il farmaco può essere utile. Ma adesso arriva Burioni, poi arriva Meluzzi da tutte le parti del mondo. E va bene, benissimo, guarda, ma siamo qui. Non lo citerei neanche. Gibrille, siamo qui ad aspettare questo farmaco a braccia aperte. Io domani vado a comprare questo farmaco. Vado a comprare questo Plaquenil. Ma perché no, dovresti comprarlo? Ma per quale motivo? Qual è il protocollo del professor Ma costa 6 euro, amico mio. Lui, ma perché lo dovresti comprare? Il protocollo di Dieraù, sì, lo conosco il protocollo. Ma non è che devi andare in farmacia a prendere un medico, un medicinale. Esatto, ha ragione su questo. Tu hai pure ragione a questo qua che dice che c'è il complotto, no, delle multinazionali. No, questo c'ha ragione. No, ma in quest'ultima fase ha ragione, in quest'ultima cosa che hai detto, vai in farmacia e lo compri. Non c'è nessun complotto. Ricerchi un attimo, non c'è nessun complotto. Il professor Burioni, che è attendibilissimo su questo, ha detto una cosa molto precisa. No, non andate a comprare, ha detto una cosa che non doveva dire. E se lo fa dare. Che non doveva dire. Stiamo cercando di capire. Vabbè, perché c'è una novità, Gibril, in più e lo stiamo sperimentando. Allora non ho capito. Allora dunque, che vuoi dire? Devi andare. Fare uno che condivide il protocollo di cura di Didier Raoult. Ancora questo Didier Raoult. Me l'hai nominato 40 volte sto Didier Raoult, con questi capelli lunghi, baffoni, questo guru francese. Non me ne frega un cazzo di questo guru francese. Ho semplicemente detto che qualcuno sostiene, tra cui questo francese e altre persone, che può funzionare questo farmaco. Ciao Gibril. Ma cosa sei tu? Un giornalista Aridaia o un virologo? Un virologo. Oh, un virologo. Bravo. Ma cosa sei tu? Bellissimo. Allora io chiamerei un signore che è Don Paolo Farinella, te lo ricordi il mitico Don Paolo? No, ma per carità. Perché ancora risuona quella preghierina. Mi mandate la preghierina di coso? La preghierina ma di... per carità. Ma guarda che ti troverai d'accordo. La preghierina di Barbara D'Urso e il signor Salvini, ce l'abbiamo? Ah vabbè, sì. Adesso ce l'abbiamo, adesso la troviamo con molta calma. La preghierina. Mi tolgo 10-20 secondi alle mie parole, che possono anche essere un di più, per pensare veramente, alcuni li conosco personalmente, a coloro che non hanno neanche voluto salutare la mamma, il papà, il nonno o la nonna. E quindi mi taccio e dedico un eterno riposo a queste italiane, a questi italiani che ci danno una mano dalla sua a uscire da questo incubo. Se vuoi io lo dico, lo posso recitare, perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. Quindi l'eterno riposo dona. Siamo in due, Barbara. Splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Allora, Matteo. Caro Don Paolo, come stai? Sono Cruciani. Ehi, ciao. Cruciani. Stai bene? Spero che tu stai bene, innanzitutto. Sì, devo stare riservato perché sento senza difese immunitarie e sono pericoloso per gli altri. Ah, ma non sei stato contagiato, no? No. Cioè sei da solo praticamente da un mese? Sì, sono solo. Io sono sempre stato solo. Senza perpetua? Senza la cameriera, la perpetua. Non ho mai avuto. Mai avuto, ma figurati se Don Paolo. Ieri sera ho finito di stirare, ho passato tutta la sera a stirare. Senti Don Paolo, io ti ho chiamato per una cosa, non so se hai visto, ma non so se la cosa ti ha colpito. La preghiera che hanno fatto ai morti, la signora Barbara D'Urso e Matteo Salvini ieri su Canale 5. Guarda, lasciamo perdere perché non hanno ritegno, non c'è gusto nemmeno, questa è una questione di gusto solo. Questi cercano a tutti i modi, siccome non devono fare audience, lui deve fare concorrenza a Conte che gli ha tolto qualsiasi possibilità, per cui le cerca tutte, questo qui è proprio impossibile. Ma ti sei scandalizzato per una cosa del genere? In fin dei conti è una preghiera, tu dici è una cosa pornografica. No, quella non è una preghiera, quella è un mettersi in mostra. Altro sarebbe stato se si fosse messo in camera sua, come dice il Vangelo, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e non farti vedere da nessuno. Ma se vai in televisione, come non mi piacciono le messe in streaming, perché non ha senso. Ma è una cosa quasi pornografica, diresti tu, cioè una cosa... Sì. Cioè, è l'uso pornografico della preghiera. Quell'altra che si mette con le mani giunte, capisce, la verginella. È una preghiera, in fin dei conti, Don Paolo, è una preghiera per chi uso è morto. Uso pornografico, bellissimo. No, io dico uso pornografico della preghiera. La preghiera ha senso se fatta in segreto, se fatta nelle forme così, non mettendosi in mostra di fronte alle telecamere, capisci? Cioè potevano fare, io non so che cosa hanno fatto, potevano fare tutto, ma non dire questo, perché è proprio fuori luogo, vomitevole. Cioè lei la considera una cosa vomitevole, questa cosa qua? Sì, però voglio dire, in fin dei conti è una preghiera, cioè è una preghiera per le persone morte. No, non è una preghiera. Un'offesa, allora, un'offesa ai morti, no, addirittura. È diverso, non è una preghiera, usa una preghiera per altri fini, è una cosa diversa. Uno può usare una poesia, può usare una cosa, cioè la poesia è la poesia, la letteratura è la letteratura, però tu non le usi così, con questo sfatasciamento, così quasi che l'hanno preparata, cioè, a tavolino, capisci? Cioè, ma andrebbe vietata? Andrebbe vietata una cosa del genere, Don Paolo? Dovrebbe essere vietata dal buon gusto, come dice Salvini, l'abbiamo visto, Vangelo in mano, Rosario, questo che non mette mai i piedi in una chiesa, non ma lascia perdere. Questo è il modo in sé che non è, cioè non è un'offesa, quella là, quella è un'offesa ai morti, non lei dice un'offesa. Secondo me è un'offesa ai morti, perché in questo momento c'è veramente un dramma nel dramma, nel senso che molte persone di fronte alla severità, all'austerità della morte, non riescono nemmeno a dare un saluto, e di fronte a tutte queste cose l'unica cosa è il silenzio, la parola più alta è il silenzio, la preghiera più profonda è il silenzio, non andare in televisione, in più in una trasmissione di estrema leggerezza. Capisci? Cioè le cose devono avvenire a luogo e a tempo. Non penso che sia quella trasmissione da riflessione da alto livello. Riflessione, però. Pure, eccetera, cioè, ma lascia perdere. No? Brezzo, queste signore scollate che recitano le preghiere. Sventolare il Vangelo in un comizio, come fa ribrezzo sventolare il Rosario, come fa ribrezzo andare alla Camera e consacrare l'umanità o l'Italia al cuore immacolato di Maria. Ma dove siamo? Ma non è possibile. Tra l'altro nel Parlamento, che è il luogo supremo della laicità. Certo. No, ma scusi, tra l'altro c'è anche il direttore, bravo, di Radio Maria. Bravo, vedi, detto da un prete, è importante però. Scusi, tra l'altro... Certo, io devo difendere la laicità dello Stato. Don Paolo, in questi giorni c'è un tizio da Radio Maria, il direttore di Radio Maria. Gesù. Che dice che per questo coronavirus ci vuole soprattutto la preghiera, l'intervento della Madonna. La preghiera innanzitutto poi l'intervento... Ma quello dice anche che questo è un castigo di Dio. Io, capisci? Cioè solo i malati possono pensare a una cosa del genere. Come malati? Solo i malati della, possono della pensare. Giusto, dai, com'è? Ma è un suo collega. Dio si diverte. Ma è un collega. Ma sappiamo tutti che cosa, come la pensa Radio Maria e quale linea segue, che è una linea. Dice che ci vuole l'intervento solo la Madonna. Un tradizionalismo puro. Solo la Madonna può risolvere la situazione. Solo la Madonna, si aspettava lui. Arrivederci. Arrivederci. La Zanzara. No, scusi, avevo un po' di. Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi. Meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine. No, aspetti. Vuoi provare tantissimo? tantissimo il sesso anale, ma hai tanta tanta tanta paura. Frocia Lenzo, leggo qui sullo schermo, caro David, che ha chiamato il signor Donato Davarese, che è molto incazzato con Farinella. Molto molto incazzato col signor Farinella. Donato Davarese è uno psicotico, diciamolo a chi ancora non lo avesse inquadrato. È uno psicotico. Ma è vero, è una bravissima persona, cos'è? Ma che non dire cazzate. È uno psicotico, è un povero psicotico. Vabbè. Donato, buonasera, Donato. Buonasera. Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao. Oh, come si sente bene? È ancora lì Fisichella, si fa Farinella? No, Farinella no, è andato via, è andato ma perché, via. Ma perché non me lo chiami un attimino? Te lo giuro, non te lo tocco, non te lo chiamo. Ti supplico. No. Ma perché piange? Perché? Perché? Ma dai, è uno psicotico però, dai. È vitale per me parlare con Farinella, credimi, è vitale. Perché? Perché? Dimmi, cosa hai da dire a Farinella? Ma sei un mentecatto, sei. Perché credo di riuscire a scuotere le coscienze di molta gente. Sì, lui si è incazzato per la preghiera, si è incazzato per la preghiera del signor Salvini, della preghiera insieme alla Duce. Lui è incazzato, io gli faccio capire come lui poi dovrà andare a leccare i coglioni a Salvini perché le cazzate che ha detto. No, ma non posso chiamarlo adesso, purtroppo ha da fare il signor Farinella. Ha da fare, sì. Ma perché sei così incazzato con Farinella? Dimmi perché. Allora, la Chiesa cattolica, da quello che so io, fa politica da quando è nata. Bergoglio, guarda, fa più politica lui, sì, che quel porco di Renzi in 3 anni e mezzo. Ancora, con Renzi. Perché devi dire quel porco? Renzi è una persona che oggi già doveva stare in galera e mangiare dai vermi per quello che ha fatto. Ma tu, in galera, ma cosa, mangiato dai vermi? Ma che immagini schifose, smettila. Nemmeno ma voi prendete coscienza quali sono stati quei 3 anni e mezzo di Matteo Renzi? Vabbè, ma lasciamo perdere. Adesso torniamo a Farinella. Perché sei così incazzato con Farinella? Allora, io sono con... Allora, prima... L'Islam. Ancora questo. Ecco l'Islam. In qualsiasi sfaccettatura si presenta all'umanità. Che delinquente. Questo è un delinquente. Sei un delinquente. C'è stato un imam che ha detto che il, come si chiama, che il coronavirus l'ha mandato là per ammazzare gli infedeli. Sì, questo è un imam. E nessun politico si è incazzato. Beh, no, ma Farinella dovrebbe, io parlo, non voglio essere volgare, Farinella dovrebbe andare a leccare gli scroti di Renzi e anche della Meloni. Ma perché? Ma perché? Allora, un papa che fa politica dalla mattina, non lo sto offendendo, un papa Bergoglio, io lo chiamo Mastro Bergoglio, sì, questo lo sappiamo. Mastro Bergoglio, che fa politica dalla mattina a sera, fa i film, ma fa il vicario di Cristo in terra, scenografie costosissime per far capire alla gente che lui è un servitore di Cristo. Invece io dimostro che Papa Bergoglio è lontano da Dio 1 miliardo di volte più di quanto non lo sia io. No, cioè tu sei più vicino a Dio di Papa Bergoglio. Mamma mia, però io credo di essere molto più. Io non ho terga seduto su un pozzo diamantifero. Ah sì, che c'è? Ho capito. Scusa, ma cosa dice? Tu sostieni, scusami. Dai, ma non è una persona normale, è un disturbato, ma diciamolo chiaramente. Cosa? Come si permette? Ma allora, sei un disturbato, sei. Gli islam ci vanno a occupare i posti più importanti. Ma dove? Davanti al Colosseo, davanti al Duomo, proprio la faccia di che ci siamo noi fuori dai coglioni. Ma chi ha detto mai così? Ma chi dice così? Mente, ma che cosa vedi? Di che cosa ti fai? Davanti al Duomo, davanti a un monumento sacro, si mettono lì. Non hanno, allora, ma quando? È successo una volta tempo fa. No, ma chi sempre, prega davanti al Duomo? Che sempre, dici? Scemo! Scemo! Moschee, non davanti al Duomo. Perché se Salvini se ne andasse con tutti i suoi elettori davanti al Duomo a pregare, sarebbe condannato da questa Italia secolarizzata, da questa Italia islamizzata, da questa Italia da quest'Italia, l'Europa, questa Europa di merda, l'Europa, sapessi che fine dovrà fare proprio, chiamami questo Farinella, ti supplico. Ma scusami, non Parenzo, è per bene mio, no, no, ho capito, per il bene dell'Italia, ma io ti supplico, bene. Ma io ti supplico, ma mandalo a quel paese anche tu, è matto, segnalalo ai parenti, è matto, è cosa? Cosa? Che ti devo dire? È matto, segnalalo, lo dico per lui, tanto segnalalo, è ossesso. Come si chiama il suo Dio? Ancora. Mi deve ma dire ancora come si storia? Chiama il suo Dio? Ma è pazzo questo, è ossessionato. Hai capito? Io voglio, allora, ma non capisco, come parlo con questo Farinella, ma ti spiego, non faccio nulla di male. Vabbè, ti farò parlare con un prete nei prossimi giorni, te l'ho promesso. Ma farlo parlare con un medico prima. Promesso, con un medico, perché con un medico, non ho capito, David. Ma lo faccio perché è matto. Parenzo, già non esiste più. Con uno psichiatra fatelo parlare. Tu sai che Parenzo non mi fa più incazzare? Io vorrei che mi facessi incazzare. Oh, non mi fa incazzare, lo so perché vuoi lo dico. Non mi fa incazzare. Ciao Donato, ciao. Cosa? Toc toc, com'è il toc toc arabo? Quello era più bello. Toc toc! No, completo, bello completo. Faida, jundillah, yadukkuhum dakkan! Yadukkuhum dakkan! Allora ragazzi... Vuoi agganciare porro? Vabbè, vuoi agganciare al toc toc arabo il toc toc reale? Sentite la differenza? Ecco. Non c'è differenza. Non c'è. Allora, ragazzi, per la serie cosa fanno i porno attori, in questo caso porno star al maschile, oh, diciamo, mamma no? Mia, mamma in questo mia. Periodo di quarantena abbiamo qua praticamente uno dei top in Italia in questo momento, direi forse anche nel mondo intero, un personaggio che è stato qui ospite, che ha fatto grandi scontri, molto giovane, un personaggio emergente, ma non si può più dire nemmeno emergente, ormai una realtà, soprattutto nel campo del web, insomma dell'internet. Max Felicitas, caro Max, come stai? Ciao ragazzi, mai duri come adesso. Beh, insomma, mai duri come adesso, amico mio, però mai duri a casa, che fai? Da solo, immagino, stai da solo? Appunto, siamo a casa qua, sto cercando in tutti i modi di aiutare anche tutti i miei fan in questo periodo di astinenza, quindi... E come fai, appunto, come fai per aiutare i tuoi fan in astinenza? A parte il fatto che uno può, diciamo, vedere i tuoi video, e vabbè, d'accordo, no, quello... Sì, no, boh, ma a parte quello, che comunque, diciamo, quello è la minor parte di fan, come sai, io ho un pubblico molto vasto, ho fatto dei tutorial per insegnare alle persone come costruirsi a casa con oggetti che tutti hanno in casa, delle vagine e dei culi, in modo da, diciamo, masturbazione. Non ho capito, tu hai fatto dei tutorial, ovviamente sulla spinta di qualche richiesta, immagino, no? Ci sono persone sì, che perché ovviamente la gente, richieste continue di fan, Max stiamo impazzendo a casa, mi sto ammazzando di sega, tutti così, sì. E allora... Ho cercato una soluzione, quindi ho creato questi due tutorial in cui spiego in uno con un guanto, per quanto di latice classico, che ormai ce l'abbiamo tutti in casa, come crearsi una vagina. Cioè ho visto anche altri tutorial, però ne hai fatto uno anche tu, cioè con un guanto di plastica. Ne ho fatto uno con un guanto e uno con un bicchiere e delle spugnette, quello però l'ho già fatto anni fa, ma l'ho ritirato fuori ovviamente. Cioè praticamente per aiutare le persone che sono a casa da sole e non ne possono più, diciamo, di utilizzare la mano... Tu dici, con un guanto si può creare che cosa con un guanto? Parenzo, tu non sei da solo, però a qualcuno può essere utile questa cosa qua, no? Non credi? No, questo non credi nell'arte, guanto, nell'arte del signor Felicitas. Cioè, dal guanto che io ho in questo momento, che cos'è che si può creare, Max? Guarda, dal guanto, dico, in meno di un minuto tu riesci a crearti una sorta di buco. Ma come faccio? Diciamo. Per esempio, una sorta di buco dove puoi mettere dentro l'uccello? Dove puoi mettere dentro l'uccello, assolutamente. Ma sì, che roba è? Ma cosa serve? Ma che roba è? Ma l'ho fatto anche una ragazza, devo dire. Comunque, cioè, tutti si masturbano, cioè, non riesco a capire il problema. È ovvio che se uno ha la fortuna di passare la quarantena con la propria moglie... Il problema non si pone, naturalmente. Io che sono da solo con i miei genitori a casa, capito, un po' devo variare. Ah, tu sei con i tuoi genitori? Tu sei con i tuoi genitori? Per la prima volta nella tua vita hai passato praticamente... Mi faccia ascoltare la trasmissione radiofonica, così saranno contenti di sapere cosa fa il figlio. Non penso che non lo sanno. Lo sanno già, figuriamoci. Cioè tu praticamente dal guanto si riesce a creare praticamente una specie di culo o vagina, non ho capito. Tutte e due, poi uno, sai, con la fantasia se lo puoi immaginare una vagina, un culo. Ma come si fa praticamente? Io lo potrei fare pure. Allora, diciamo, quello ancora più facile è il metodo del classico bicchiere di vetro che abbiamo tutti in cucina. Sì. Prendiamo due spugnette, le spugnette quelle per pulire la pentola, per grattare dal grasso, le inseriamo dentro e poi inseriamo un guanto in lattice a metà tra le due e rimbocchiamo. Così proprio creiamo una sorta di... Mamma di cuccia, perché ovviamente i sexy shop sono chiusi, quelli online non possono mandare perché non sono beni giustamente di prima necessità, e quindi almeno ho creato un diversivo per la gente a casa. Pensate, per masturbarsi e per godere. Ma che deve fare Max? Cioè, sta anche perdendo dei quattrini, immagino, no? In questo periodo più ognuno o meno. Ognuno usa il proprio talento. Fortunatamente non sto perdendo soldi, perché comunque riesco a ricrearmi, comunque il mio sito eccetera eccetera, e quindi no, su quel punto di vista sono fortunato. Però comunque è la gente a casa che mi continua a scrivere questo, oltre insomma che a intrattenerlo. Voglio sapere una cosa, a parte adesso perché lui è uno malato di sesso e dunque sicuramente gli manca il contatto col corpo femminile, questo non c'è dubbio, poi voglio capire come riesce ad ovviare a questa cosa qua. Però prima, essendo un artigiano, una partita IVA ti arriveranno, immagino, anche i 600 euro, no? Sì, sì, il mio commercialista ha già fatto la richiesta. Non ci credo, veramente. Però io già, come a tutti i suoi clienti, però ovviamente ho già deciso che appena mi arrivano il giorno stesso li do in beneficenza all'ospedale di Udine, ovvero di... Ottimo, questa è una buonissima cosa. Parenzo, anche tu che disprezzi il mondo del porno, che non accetti il mondo del porno è un pervertito questo qui. Sì, ma insomma, un po' un maiale, ma non importa, sono fattacci suoi, va benissimo, evviva per il lavoro di base. Lei non è un maiale. Cioè, ma sì, ma non lo faccio in pubblico però, ma magari sì, ma non mi piace dirlo. E quello fa in pubblico e ci guadagna. Che fate quello che volete, ma non mi interessa. Però devi apprezzare questa cosa. Una volta ricevuti i 600 euro, apprezzo molto questo gesto. Avrebbe potuto direttamente non chiederli, cioè direttamente poteva non fare la richiesta al suo commercialista. Ma no, invece al contrario, prendi e doni invece di lasciare allo Stato, prendi e dai a chi cazzo ti pare. Io sono più sicuro di darli io direttamente al mio ospedale qua di Udine. Ecco, ma dico, Max, tu che ci hai raccontato una volta praticamente di non riuscire sostanzialmente a passare un giorno senza scopare, addirittura più volte, cioè ti alzi la mattina e il tuo unico pensiero è la figa, diciamoci la verità. Assolutamente. Come assolutamente cazzo fai in questo periodo? Questo voglio capire. Sto cercando di adoperarmi e di, diciamo, non pensarci. Infatti io dall'8 marzo che sono chiuso in casa sto leggendo un sacco di... Ma riesci a non pensare? Diciamo, quante volte ti masturbi al giorno? Almeno 4-5 volte. Almeno 4-5 volte. Sì, però l'altro giorno sono andato, dopo 20 giorni circa di quarantena, sono stato a fare la spesa e ho avuto un'erezione incredibile in cassa, perché la cassiera mi ha fatto una battuta, cioè mi ha chiesto tipo: Come fai adesso a lavorare? E io subito... Ti sei arrapato subito. Cioè, la tentazione di portartela a casa o di dargli, no, di dire vieni dopo a casa mia oppure ci vediamo dopo, era fortissimo. Se già non te la sei scopata, perché la cassiera... No, ovvio, ma infatti penso che finita sta quarantena qua, a parte che ho già una lista stilata, perché ovviamente le ragazze e le donne stando a casa... sono tutte più arrapate, quindi ho tantissimi messaggi di tantissime tipe che sono già prenotate per scopare finita questa quarantena. Ci vorrà tipo, non so, 6 mesi per... No, guarda, io ovviamente, essendo malato, io ho già deciso, finita questa quarantena, io prendo una settimana per fare almeno 4 tipe al giorno con un tour in macchina, che non so se forse anche... Sì, potresti anche pubblicizzarlo, cioè potresti fare, credo, fine della quarantena, vabbè, tour sessuale di Max Felicitas. Non posso filmare perché non sono... No, certo, non sono attrici, certo, però è una sorta di cazzo a domicilio, mettiamola così. mamma mia, è un genio. Senti, però fai anche... No, dimmi, che mi vuoi dire ancora? No, ti sto dicendo questo appunto, che ho tantissime ragazze prenotate, soprattutto adesso purtroppo per l'Italia. Io ripeto, io sono uno dei pochi fortunati che sta guadagnando e quello che mi arriva dallo Stato lo darò tutto in beneficenza. Lo dico per chi non può, ovviamente essendoci un periodo di crisi, sono sicuro che verranno fuori tantissime attrici, perché come ho già detto, la maggior parte delle attrici, l'80%, mettiamo, è spinto dai soldi. Qui sicuramente dopo questo periodo... Ah, tu dici questo periodo, la povertà è drammatica. La povertà produce attrici porno. Beh, certo. È brutto da dire, però come ti dico, almeno per quello che ho visto io, l'80% delle attrici non è spinto dal piacere di farlo, ma dai soldi, dai. E quindi in questo caso, visto che ci sarà ancora più bisogno di soldi, sicuramente usciranno tantissime nuove attrici. Senti, comunque, ma sicuramente 4-5 volte al giorno la masturbazione però è pesante, o non ti pesa, 0-4-5... Ogni tanto sento che mi brucia, però... Ma cosa pensi di più? Vedi qualche cosa nei video oppure fantastici, cioè non lo so, che tipo di fantasie ti fai? Allora, sono passato in questo periodo di delirio mistico, sono passato dal masturbarmi guardando praticamente video porno come fanno tutti, sì, guardando anche i miei vecchi video, quindi cioè, rivivendo pure, diciamo in una sorta è gotico, una sorta di pure è gotico, una sorta di delirio di onnipotenza di Max Felicitas che si masturba sui suoi video, sui suoi è filmati, una roba incredibile. Quindi, rivivendo il momento, ma non masturbandomi sul video completo, ma su proprio tutti i pezzettini, capito? Un mix, addirittura, un mix. Rivivendo il momento, assolutamente. Senti, assolutamente. No, ma mi segnala qualcuno praticamente che tu fai anche delle dirette con delle persone senza farci sesso. Immagino che qualche scopata virtuale te la fai, come tutti, o no? Allora, adesso ho fatto questo format su Instagram che sta andando molto bene, in cui si sono avvicinati questo anche il format. In cui praticamente faccio un po' da confessore a ragazze normalissime, cioè mi chiamano ragazze normalissime, ovviamente maggiorenni, in cui parlano un po' e si esprimono liberamente. Ma che dicono? Che ti dicono? Che ti dice la gente, le ragazze che ti avvicinano su Instagram? Che ti dicono? Guarda, le ragazze sono tutte molto libere, non hanno veramente pericolo. Ma che ti chiedono? Non credo che alcune ti chiederanno se puoi fare un provino, magari può succedere anche quello. No, sono ragazze che non c'entrano niente col porno e non vogliono neanche c'entrare, sì, ma che non hanno paura di mettersi davanti a 20.000 persone che mi entrano in una diretta Instagram, sì, a parlare di quello che... di quello che è il sesso per loro, di cosa gli piace fare, di con quanti maschi sono andati. Sai che la farei io una diretta, capito? Max Felicitas e il sesso dei giovani. Bellissimo, una volta a settimana, durante questa pandemia. Lui, prenotiamo 6-7 persone che gli chiedono di fare... Ora, io ti giuro, io ho prenotazioni, tantissime già, di ragazze che prenotano per la puntata dopo. Ma cosa vuol dire prenotazioni? Ma che cos'è, un ristorante stellato che prende prenotazioni da un anno? Ma che chiedono, per esempio? Fammi un esempio, che chiedono? Come il sesso anale? È più un'intervista che parte da me, poi loro iniziano a entrare, tipo una ragazza, l'ultima intervista che ho fatto, normalissima, una che non ha niente a che fare col porno, mi ha detto che lei è pansessuale. Ovvero che lei ha provato tutto. Sappiamo cosa è. Pansessuale significa che sostanzialmente gli piacciono donne, uomini, trans, chiunque. Non ha una preferenza vera e propria. Sì. Poi ho scoperto che tutte le ragazze ingoiano, sì, cioè tutte ingoiano. Anche quella è una cosa, insomma, anche là si può discutere, comunque sì, assolutamente. Cioè, tu vai a fare l'inchiesta sulle preferenze sessuali di queste ragazze, che non necessariamente sono delle persone, anzi assolutamente sono estranee al mondo del porno, mi sembra di capire, no? Il 90% non c'entrano niente col porno, e soprattutto la prima domanda, dopo avergli chiesto come mai seguono un porno attore, mi chiedo come affrontano questo periodo di quarantena. Che devo dire che tutte liberamente dicono che si masturbano, chi con oggetti, chi con mano, chi in videochiamata con fidanzati. Ma pensate. Tutti si stanno masturbando in questo momento. In questo momento c'è una grande dispendio di energie masturbatorie, sicuramente. Assolutamente. E infatti, finito questo periodo qua, ci sarà l'inferno. Ragazzi, un appello che faccio, soprattutto ai ragazzi giovani che mi seguono, mi raccomando, fatele fuori tutte, nel senso di scoparle, ma sempre usando il preservativo, perché... Ciao amico mio, io vorrei da te una condanna molto forte, però prima di chiudere, una condanna molto forte di quelli là che hanno fatto quel video porno in questo periodo a Rimini, non so se hai letto da qualche parte, un video porno a Rimini davanti alla caserma della polizia con insulti eccetera eccetera, sono stati già identificati e penso che verranno puniti severamente verranno puniti. Questo sì, ovviamente non fare cazzate del genere, ciao. No, assolutamente. Ciao. Allora ragazzi, voglio chiudere con una cosa, caro Parenzo. La cosa è questa. È finita. Però ti segnalo una cosa. È un paese normale questo in cui ci vuole una nuova circolare del Viminale ai prefetti, in cui si specifica che è possibile camminare in prossimità della propria abitazione e l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva, jogging, e dopo un'ora c'è una precisazione della precisazione precedente in cui il jogging, cioè meglio la corsa. Non lasciare equivoci. Ma che cazzo di paese è che ci vogliono le circolari del Viminale? Altri paesi hanno le applicazioni, qui stiamo alle circolari del Viminale. Che cazzo è? Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cosa?